che ti dico com'è lo stream. Allora, no, ma lo streaming dovrebbe essere buono. È solo che il problema è che mi si blocca l'immagine quando vado su Facebook. Ma non è un problema gravissimo, perché l'importante è essere qui, essere tornati in diretta con Tycoons and Dragons, RipGDR e La Maledizione di Kat, episodio Yo. 51. Saliremo di livello? Hai detto catta se siamo bravi. Se... Lo ha No. chiesto Ma lo prima. Ah dice ogni sì? volta. Lo Lo dice ogni dice volta. sempre Sì, tanto. Lo no. dice Ha sempre. detto Allora no, probabilmente. allora siamo tranquilli. Allora siamo tranquilli. Ma ricordatevi che ci potete comunque continuare a seguire sui canali social, Tycoons and Dragons e RipGDR, il podcast di RipGDR che si arricchirà presto di nuovi contenuti. Giulio, mi stai andando un po' indietro. Lo Non so che perdermi il ritmo adesso sul più bello, che Katta anche è praticamente sul pari e ho già anche io non messo. faccio un cazzo. No, tu hai. Devi, do, con oggi avrai due articoli da fare che nel Esatto. weekend so che già che me li manderai, vero? Merda, Look se me sei ottimista, va the eyes, bene. look me the eyes, look me the eyes. Va bene. Condivido il tuo. Molto bene. Sono Perché è già più malato, lo facile? sai. No, perché è più facile scrivere un articolo. Immagine. Ah, esatto, Giulio deve fare l'immagine perché vuole fare l'immagine. Tu, Katta, non devi fare l'immagine, quindi basta che lo scrivi e lo ha fatto appena fresco, ce l'hai proprio lì, sulla punta del La puoi polpastrello. assumerti che ti intrippi su quel gioco. Va bene, va Faccia bene. stabilità. Ho l'arco. Arci, Glielo smetti. so Come si che ti chiude intrippi Arci? in quel gioco. Arci, smetti di giocare altri giochi. Che Perché sono tanto tra bravo. 10 minuti, ci saluta e va a dormire. Allora, Francesco Rimani Arcidiacono è sull'OL. con noi a giocare a strani giochi. No, forse LOL. Ti dimostrerò come si può giocare a due giochi No, contemporaneamente e non ci ordinare dimostrare un il cazzo. Smettere e basta. Lo faccio da tipo 6 mesi, sta cosa qua. Sì, esatto, già ha già dimostrato Salla, abbiamo già visto che non segue un cazzo. Edoardo Salladini, Marco Bosi, ma anche Stefano Gamberoni, Master Rico Cattabriga, Giulio Bosi e ci sono anch'io, Andrea Giacomo Vecchi. Comunque sono il mio Nonostante computer a tutto, ci 10 siamo. anni la grafica la fa la strafiga. Bob, io gioco con questo, lo so La se... sigla la mettevate sul server o sbaglio? L'abbiamo già messa. Io non la sento. La rimetteremo. Perché se è arrivato Sì, beh, è inutile dopo la metterla palla quando del io non Pellegrino. ci sono e non siamo in diretta, con tutto il rispetto, non È lo voglio stesso approccio di accentrare. LOL, puoi aprirlo da un microonde. Cos'è questa roba? Se faccio Cosa che così, pianto ora per terra. ti dico, lo sento È la solo io. Spike, che è come funziona il gioco. Ecco Dov'è? ti... Ok. Non No, allora, è una Arci, sta bombola roba questa. ferma, la È posso una fermarla bomba. io in qualche modo? Come ferma? Arci No, tu no. Arci. Ok, deve chiudere il tutorial. No, chiudo. No. Aspetta. Vai, fai partire ma io mi Scorresm. chiamo come all'ol, tra l'altro, Arcio 90. Adesso si Tu mi dovrebbe sentire. Ok, eccomi. L'avevo messo al 18%. Alzato un po' il volume, sì, se no non si sente. Logout. Ora si Fine. sente, ora si sente. Beh, carino Comunque però. sì, devi andare con la spike e piazzarla, gli altri devono difendere. Va bene, nel 50° episodio della Maledizione di Katta, cioè quello precedente a quello odierno. Cosa è successo? Ma questo è. No, cos'è? È la colonna sonora di Eyes Wide Shut. Allora no, sì però. È quella. È quella che c'è anche Scrubs, che c'è l'inserviente che guarda No, male, no? quello è Kajani Scazzi. Sì. Non è questo? No. Io quello dicevo. Vabbè, ci assomiglia però un po'. No. Aveva presente quella che dici tu, ho Dicono detto. cose a caso. Va bene, va bene, Sì. va bene, va bene. Non perdiamoci in chiacchiere, andiamo dritti al punto. Comunque ho scoperto che c'è un Nel. corso discorso sulla lingua latina in cui c'è. E niente. Allora, nell'ultimo episodio della Maledizione di Katta abbiamo affrontato la strega e Tirannosauro. il suo boccino d'oro su cui si era rintanata. Cioè, prima pensavamo fosse una specie di shuttle gigante. Comunque era già 2 sessioni fa, ce n'è stata una e mezza. Allora, in quella e mezzo non abbiamo distrutto la strega la scorso? Sì, la scorsa abbiamo semplicemente ucciso la strega e basta. Esatto. No, due sessioni fa abbiamo avete ucciso la strega la scorsa. Ah, no, è vero, sì, no, siamo andati prima al castello. No, vabbè, siamo. Ah, no, è vero, siamo andati al castello, è vero. La scorsa non c'era l'NPC Salla che ha fatto il miracolo. Eh no, era due sessioni fa, ho fatto il delirio. La scorsa ho giocato. Allora, è vero, l'altra volta avevamo già sconfitto la strega. Però se volete me ne vado. Per cui abbiamo... potevi uccidere Strad se non c'eri colti. Ho fatto la perlustrazione. Sì, sì, abbiamo ristabilizzato la situazione dove c'era la strega. Quindi abbiamo più o meno fatto sì che tornasse in sé il figlio di Martinkov, e che poi è tornato a Kretsk. Abbiamo riposato nella cantina... della villa distrutta, e lì abbiamo trovato quello che rimaneva delle botti dello champagne, e abbiamo bevuto l'ultima bevibile per festeggiare, e credo che abbiamo comunque recuperato la pietra che ce l'abbia Giulio, giusto? Sì, ce l'ha Giulio. Esatto. Abbiamo trovato delle armi inutili, se non ricordo male, degli oggetti più o meno inutili. Più o meno inutili, se vuoi lasciarli vivi, devo buttare anche quelli che puoi. Io non ne ho nessuno, credo, o sì? Sì, tu hai... Ah, l'olio sharpness, Che hai... L'olio della... Sì. Attacco e danni e rende magica l'arma. Ok. Abbiamo trovato un sacco di gemme, monete d'oro per... pergamene varie. Esatto, Kata si è fatto più o meno un tesoro, insomma, quello si è provato. Ecco. E dopodiché siamo andati per... abbiamo deciso di andare alla fortezza dei paladini del drago d'argento, giusto? Sì. Si chiama esatto. Così? Esatto. Ok. E però non abbiamo deciso di fare la strada canonica, perché era troppo lunga, e quindi ci siamo avventurati in delle operazioni di scalata, eccetera. Per lo più aiutati da Darci, che in forma di aquila si trasportava, eccetera. Siamo arrivati lì davanti, siamo entrati, se non sbaglio. Sì, eravate appena entrati, ma prima di entrare Arci, volando, ha fatto una perlustrazione dall'alto. C'era la parte destra crollata con dei ragni giganti. Esatto. Vedete questo castello in pietra, la cui parte... Perché sfarfalla così questo PDF? Ok. La parte a sud è praticamente esposta alle intemperie ed è completamente ricoperta di ragnatele, dentro le quali si riescono ad intravedere... Devo fare guarda in diretta, giusto? Ok. Ok, ce l'ho. Forse, non lo so. Sì, sì, sì. Dal tetto si vede... No, basta. No. Ti prego. Dal tetto si vedono varie strutture che sono state abbandonate o comunque distrutte o dal tempo o da un conflitto passato. Sorvolando la struttura non si vedono che mi sento in imbarazzo. Metto in primo piano. Questo è il tetto. Sì. Sì, oh. Vedete che ci sono ancora due vecchie baliste e una terza distrutta. E due una torre. No, ci sono io. C'è la luce. È per la rubrica Arci contro i suoi. La torre che sovrasta il castello, anzi, sulla cima una specie di braciere che fa tipo da fuoco di segnalazione, ora spento ovviamente. Anzi, è Arci coinquilino molesto. Al centro del tetto c'è un buco, che il tetto è sfondato. E cioè, questo è quello che ho visto io mentre volavo, no? Sì. Ok. Non siamo già lì. Avevate appena messo piede dentro dentro il portone. Io avevo provato a convincerli a darci udienza, ma avevo fallito, mi sa. Le tue parole hanno risuonato nel castello. No, noi avevamo fatto per entrare. Entrando c'era la statua che si era aperta, però c'ha... Via, sì. Era scarica e Salla ha fregato la gemma di ghiaccio. È vero, abbiamo evitato dei danni. E poi noi siamo entrati, tu hai fatto il tuo discorso e hai sentito un'ombra che passava. Sì, però esatto, più o meno mi hanno ignorato. Avete visto quest'ombra che sembrava, no, come se due ali gigantesche attraversassero la stanza e finivano praticamente in un angolo del salone d'ingresso, e dalle tenebre si sentiva il sibilio come di un sibilo, boh, come di un grosso rettile nelle tenebre. Okay. E, per, appunto, siete appena entrati nel salone e avete visto, Arce, hai visto dall'alto che sul retro del castello c'è un cimitero, e in un angolo di questo cimitero c'è una struttura distaccata che capisci essere come un mausoleo, diciamo una tomba per qualcuno di importante, sul cui tetto ci sono quattro statue di gargoyle ricoperte di lamina d'argento. Però io questa descrizione, se non erro, l'ho già dovuta subire la volta scorsa. Esatto, essere... quindi questo è il riassunto della volta scorsa, quindi la subisci sì. di nuovo. Sì, sì. No, no, non era una lamentela. Strano, però sembrava proprio efficace. Ti assomigliava molto, però. Forse il verbo subire l'hai vista in maniera... Hai ragione, c'è chi piace subire. Esatto. Ok. E quindi niente, sì, tu sei entrato nel salone e le tue parole sono state accolte da questa manifestazione di questo spirito. Sfortuna aveva fatto una prova di religione. Le parole di Rex queste, però. Sì. Okay. E Sfortuna aveva fatto una prova di religione, aveva capito che è molto probabile che lo spirito del drago che una volta abitava in queste terre sia inquieto e ancora non trova la pace che meriterebbe nell'aldilà. E, altra cosa che non trovate... nell'aldilà. Dipende quando è morto. E... un'altra cosa che avevate notato, dipende quando è stato ucciso da strada. Ma non l'ha ucciso già da vampiro? Non lo sapevo. O sì, non mi ricordo. Teoria, la storia che vi può aver raccontato qualche elfo che esistevano già, abitavano già queste terre. La strada arrivò in questa valle, la conquistò da umano. Quello sì, ma lo scontro con l'ordine non avvenne. Cioè, l'ordine già... era già prima che era qui prima che arrivasse strada nella valle. Sì, ma prima cioè l'ordine che. Cioè, o strada attaccati a caso, o l'ordine che motivazione aveva per combattere comunque un umano, conquistare un territorio. Perché voleva invadere il loro territorio. E quindi si sono difesi. Però questa è una interessante riflessione. Però se strada ha ammazzato un drago, perché... tu, ma non è, forse. E chiaramente era un umano, ma era il generale di un esercito, quindi non è che l'ha ucciso in un ovuno. Tu dici, così sono buoni tutti, lo so. Adesso sarebbe interessante fare una prova, vedere se Straz riesce a prendersi un drago da solo. Penso dipenda da quanto è antico. Comunque, queste sono elucubrazioni che sono interessanti, ma adesso non ci interessano. Comunque, la tua riflessione non è sbagliata. Nel senso, perché l'ordine si doveva incapponire così tanto contro un umano, per quanto fosse un generale crudele e terribile? Le tue capacità investigative, Athanas, potrebbero suggerirti che questa struttura, questo ordine, sia stato il suo scopo in questa valle potesse essere quello di proteggere qualche cosa da grinfie che non dovrebbero. Ma è bello quando non deve neanche fare dei tiri. Beh, vabbè, diciamo che sono informazioni che il tuo personaggio può riuscire a fare 2 più 2. Poi, se magari ti servono cose più dettagliate, allora ti toccherà tirare. Dai, guarda, prova a sbloccarti il dettaglio. Oh! Non mi ricordo quanto ho, comunque mi sa 22. Mila. Però, ti viene in mente che le cose più antiche che ci sono in questo posto, prima della venuta di Strad, e probabilmente prima dell'insediamento di questo ordine, da quello che puoi pensare se si è insediato vedendo lo stato di avanzamento dell'invecchiamento di questa struttura, il suo stato di abbandono, sai che ci sono i resti dei circoli monolitici dei druidi, e vabbè. E poi una Il cosa tempio oscura e antica, esattamente. cos'era del Il tempio di tempio Ambra si chiama. andiamo di Andra Di Ambra. Ambra Ah, Ambra lo pensavo facessi il tuo salutiamo nome. Ambra o Esatto. Andra Ambra, Ambra come Masotti. ah I come lunga Che salutiamo. salutiamo ma non ci segue no non lo so. Male. Potrebbe, non lo so. Ma vedi, anche in questo periodo lo E di chi è scriveva la colpa? sempre. Ambra tutto bene, dalle finestre. Dicevo. Comunque sì, l'intuito del tuo personaggio ti può suggerire che un ordine di paladini capitanato che Magari come, proteggevano ha il come tempio dei simbolo Duranici, cioè volevano evitare che qualcuno arrivasse al che tempio della qualcuno entrasse in questo luogo che avete il ragionevole sospetto racchiuda un oscuro e terribile potere e quindi evitare che finisca in mani sbagliate. Spoiler, hanno fallito. Questo comunque non gli impedisce di continuare la loro battaglia, come avete saputo dal Revenant che avete incontrato alla periferia di Kretsk, il signor Oriordan, È vero, che un grande appunto, amico mio. a differenza, esatto, a differenza di quelli che normalmente si incontrano, chi ha la sfortuna di incontrarli al di fuori di questo territorio, Ma noi abbiamo sfortuna. esatto. Infatti, normalmente un Revenant ritorna, è un cavaliere, un non morto che ritorna in vita spinto da un incredibile desiderio di vendetta. E ha un anno di tempo per portare questa vendetta a termine, a quel punto poi sparisce. Dato che da Barovia nulla entra e nulla esce, che se Strad non vuole, Quindi sto prolungato questo periodo. anche le loro anime rimangono qui indeterminatamente. Ah, però. E quindi Beh, possono chiedere anche un se mutuo, però. muoiono, contratto a tempo indeterminato. Possono chiedere un Esatto. mutuo. Anzi, Però non è contratto a proprio uno tempo dei lavori indeterminato banchi. in realtà, però c'è la clausola capestro che ti rende Beh, automaticamente congratulazioni! indeterminato. È quello che hanno sempre Era quello che voluto. sarebbe voluto. Esatto, era quello che ci voleva. Felicitazioni! E quindi niente, praticamente anche se arriva la loro scadenza oppure vengono uccisi, dopo un po' Beh, però ritornano Katta è all'infinito. attinente al loro percorso di studi, eh? Esatto, è molto attinente al loro percorso di Beh, studi. sì, non si può negare. Salutiamo il nostro percorso di studi, se ci sta ascoltando. Chissà se è già Chiaiac, commentato. siamo tutti Esatto. laureati in Vabbè, gnaccologia. iacologia. Beh, lo stiamo studiando da molti anni. Sarebbe Non bello abbiamo ancora capito molto. farne una facoltà. Anche perché credo che potrei diventarne professore, Oh, onestamente. ringraziamo la mamma dell'Ambra che ci ha già condiviso, la fan Grazie. numero uno. Beh, perché Andiamo, abbiamo va citato sua bene. figlia. Esatto. No, però ci E condivide sempre, ci condivide sempre. Vero. quindi così, Forse perché hai prendiamo in messo. giro molto Shea, ci può stare. Esatto, potrebbe essere, attenzione. Onesto, onesto. Quindi hai messo piede dentro questo salone e questo salone porta a 6 porte. Hai 2 in fondo e 4 ai lati. Ma quindi... No, due da una parte, due dall'altra. E in più... Io Giulio, tutto nero il tuo schermo. Siamo tutti lì. Cioè, tu sei entrato nella porta, gli altri sono sulla soglia. Ecco, questo non, è un... non si vede la finestra. Questa è una delle difficoltà di Discord. Perché non tu, con tu intendi me o Giulio? No, tu sei al centro e Giulio è... Vardistratanas, Vardistratanas. È qualche passo più indietro. Il mio stream è... Atistrad. Allora prova a ricondividerlo. Il stream è terminato, non mi credi. Aiuto, non ce la faccio più. E, vediamo se ma funziona. Quindi alle mie parole nulla succede. Tipico. Però vabbè, se lo metto in icona non quanto si normale. Sì, sì, vabbè. Sì. Vabbè, tutto sommato. Vabbè. Ah, non si vede più. Bello nero. Ma porca troia. Eccolo. Io lo vedo neanche. Porca troia. Cioè, se provi a ingrandirlo, dici non si vede. Forse gli devi dare il tempo di... No, io non lo vedo neanche. Per Roll me 20. È tutto nero, vabbè, ma perché per le proteste scopre l'uccisione di Floyd. Ah, sì, è vero. Black Lives Matter. Ma io non lo vedo proprio. È tutto nero. No, sì, è tutto nero. Aspetta che provo. È vero, fa la protesta come su Instagram. Va bene, arrivo che mi prendo qualcosa. Magari attaccandomi alla LAN la cosa migliora. Forse potreste perdermi per qualche momento. Ma tu stai già condividendo, perché non ho neanche proprio lo schermo. Io sto condividendo. Visto che poi ha buttato via dei fazzoletti sporchi. Ma qua vedi Roll 20, vedo la schermata. Io non c'ho. Sì, ci sono. Catta c'è, immagine c'è. Ok, tu ce l'hai. Chi è che non ce l'ha? Era tutta colpa di Betty. Adesso si vede bene. Ora non si vede ecco, bene. Ecco. Adesso siamo noi sette. Non mi dà e caso strano, coincidenza. Vezza appena seduto. Porca troia, Vezza. Cosa è successo? Che cazzo fai? Aspetta, se faccio così, no, non capisco perché mi dà sti problemi. Puoi provare ad andare a prenderti qualcosa da bere. Boh, prova a toglierlo e poi a ritornare in onda. Perché ero via. Suono di grilli. Se no... No, è nero, da nero. Adesso è nero. Se invece condivido il mio schermo... Schermi. Senza sapere quando... Si vede. Giusto? Sì, va bene anche così. Direi che va bene, non è? Okay. Ottimo. Perché io invece continuo a vedere te? Beh, perché devi cambiare finestra? No, cioè, non, cioè nello schermo di tutti, prima quando condividevi o cambiavi il tuo schermo o cambiava il tuo, me ne aggiungeva uno invece. L'unica cosa, non tenere di cioè, vedo voi sei. Sì, devo tenervi in icona, non vi vedrò più, addio. Dovresti vedere l'ottavo schermo, scemo, non so perché tu non ce l'hai. Non lo vedo, ma non lo vedo. Lo poi senti. Addirittura se adesso Katta sta condividendo, io vedo la faccia di Katta. No, no. È sempre streaming, però prima faceva streaming diretto e adesso stream... Ah, ho capito. No, non lo vedo la cosa streamata. Beh, so se è l'unico che non lo vede, forse... Prova a uscire e rientrare un attimo dal server. Così lo possiamo insultare finché se n'è andato. Se n'è andato? Ah, sì, no, ma credo che debba cliccare per attivarlo. Ma dice che non lo vede proprio, perché comunque cioè, compare la schermata, guarda, in diretta. Beh, Arci ci fa, quindi non è colpa del cellulare. Giocando chissà cosa, quindi. Arci non sta guardi strada, scusa. Devo guardare quella roba lì? Ci sono, l'hai vista? Tu la vedi la mappa? Sì. Adesso Scio la vede. Adesso vedo che mi avete smezzato lo schermo rovinandomi tutto, però... No, ma quello è Katta. È Katta. Ora vedo bene. La vedi? Adesso. Ma è vuota. Scio, se non parli, come cazzo? Scio! Smutati. Sei mutato. Ciao. No, non siamo più. Vabbè, giochiamo. Non ti sentiamo, Ceo. Prova a uscire e rientrare. È partito un coro di un certo personaggio. Cosa? Strano che non sia già partito un coro di un certo personaggio. Ma perché sta usando il cellulare? Devi cambiare il cellulare. No, pensavo non si sente. Ah, è quello tra un po'. Perché Atanas adesso si ricorda della prima avventura in Barovia, per la casa. E quindi allora, gli sale l'ultra. Vabbè, questa mossa catta mi è piaciuta per eliminare il CEO. Grazie. Altro verso, oggi ti ha taggato su un post del Bologna con Paponi, non hai cagato la mossa. Mi hai taggato, sì, ma dovete capire che io sono riemerso tipo alle 7. Quindi mi sono terminato. Sono di belli. Sentiamo. Mi hai menzionato in un commento. Cos'è lo Scorpio? Ah no. No, non un gol di testa. Ok. Stai streamando, vero Katta? Sì, gli altri non è che riescono a vederlo. E tu riesci a condividere il tuo schermo così magari vediamo qualcosa che può essere io determinante, sì. Ah, io semplicemente vedo normalmente voi cioè noi sette e basta. Non mi appare lo schermo in più. Prima era apparso, ora no. In muto lo vedevi. Aspetta, fammi vedere. Sì, prima quando ero muto per assurdo, sì. Prova a entrare e uscire finché le due cose non baciano. Sì, farò così. Forse dobbiamo rassegnare una delle due. E finiamo qua. Ora guarda la diretta. No. Diretta alle 8. Diretta alle 8. Va bene, guardi, strano. Sì, attacco. Mi sentite? Hai due porte in fondo. Mi sentite? Sì, ti sì purtroppo, oh, sì. Bene. Ora c'è tutto, vai. Aia. A bombazza. Ci sono due porte in fondo, ci sono e quattro porte ai lati. Un orango tango. E queste scale che salgono al piano di sopra. Due piccoli PNG. Sono chiusa. No, pilare, la prima stanza sulla sinistra è chiusa. Sono io. Sì. La porta è chiusa, ma per vedere se è chiusa a chiave, chiaramente bisogna provare ad aprirla. Vado e la apro. Ok, Vardistran. No, Atanas, tu sei la qua. La chiudo e la faccio sempre. Vardistran. Sì, non ce la farò mai. Fermo, sciocco. E mentre la apro, allora, chiedo se c'è qualcuno in casa. C'è nessuno? E la apro. So c'è come sei, Jenny. Cortese. Allora, quindi io per rivelare l'area devo fare così. Esatto. Bene. Entri in questa stanza. Hai sbloccato la descrizione. Hai sbloccato la descrizione. No. Giulio. Così, ragazzi, cioè, dobbiamo andare nelle stanze nere. Cioè. Sì, ma noi esatto, abbiamo fatto... se noi entriamo nelle stanze a occhi chiusi, tu tecnicamente non ci puoi descrivere niente. Posso descriverlo? Noi abbiamo passato davanti a te, Giulio, perché pensavo che avessi fuoco a tutto. Quello che toccate, e quindi la descrizione sarebbe stata: vedete un insieme di cenere davanti a appena trovo un camino, lasciami trovare un camino in questa stanza. C'è un camino, tu l'abbia trovato, ecco, c'è un camino, vedi, come se diventò borghese una volta non ti serviva. Questo no, in verità anche nella casa, perché si parte sempre dal camino buttando le robe dentro al camino. Adesso inizierò a smantellare le pietre e a buttarle dentro al camino. Cosa? Prendiamo fuoco, ovviamente. Io sono in grado di farvi prendere fuoco. Ah, pietre focali. Okay. Ho fatto prendere fuoco a una griglia. Una volta probabilmente era un alloggio molto, molto ricco e ricercato. E probabilmente utilizzato da una persona importante. Ma di sicuro ha subito almeno un saccheggio nella sua storia. E quindi tutta il mobilio e quello che di diciamo prezioso poteva esserci è stato portato via e rimangono probabilmente solo macerie e la parola che cerco non è rottami, ma è... E c'è un'altra porta in fondo. Rovine. Sì, c'è un'altra porta qui e qui c'è il tuo caminetto. Okay. E qua ci sono due finestre sottili tipo feritoie, C'è del legname, dei resti di mobili. Allora, sì, contro il muro a nord c'è un sarcofago. E per questo sarcofago è fatto di legno nero con il simbolo di una regina scolpito, intagliato sopra il coperchio. Cioè, cos'è il simbolo di una regina? Giusto, sta sbloccando anche le... È un simbolo nobiliare che raffigura una donna di nobili origini. Allora grido, libero, ho trovato qualcosa. Bene, cosa fate? Entriamo. Ce ne andiamo. Vabbè, lo seguiamo. Io mi prendo 10 minuti per fare Detect Magic come ritual. Ok, bravo. Lo fai dentro alla stanza? Sì. Tu sei ancora un orso, Pac? Devo stare 10 minuti ad aspettare che questo faccia Detect Magic. No, voi potete fare quello che volete. Io avevo finito Aquila. Ah, ok, quindi sei un nano. Io busso sul sarcofago. Allora... il suono è di quello che fa una cassa vuota, diciamo. Lo sportello si apre e dentro vedi praticamente delle scansie. Questo sarcofago veniva utilizzato come si dice, come armadietto dove ci metti il vino, tipo cantinetta. È un sarcofago che veniva usato come cantinetta. Esatto, e dentro è pieno di vetri di bottiglie di vino rotte. No. Per il resto, in questa stanza ci sono un divano marcio e delle sedie rotte e degli ottomani ribaltati, presente quelli. Non le persone, gli sgabelli. Vabbè che il loro impero è caduto, però così, rimanere così a terra, ribaltati, insomma. Ecco come è caduto. Vedi? Bene, nel momento in cui vi guardate in giro in questa stanza, il fuoco si accende nel camino. Ah. Lo volevo accendere io, però ok. Bravo, no, non fai in tempo. Un fuoco erutta dalla morta cenere. Aspetta, assume Harry Potter. È il biglietto, sì, esatto, che mi ha regalato Vez. E assume le fiamme assumono la forma di una piccola creatura che ricorda in tutto per tutto un piccolo drago. E lui vi soffia. Un piccolo drago? Vi soffia addosso e scoppietta come... Ah, appunto... Un piccolo drago della serie, un drago d'argento piccolo, tipo uno pseudodrago, quelle cose lì. La forma è quella di un drago, diciamo, canonico, quindi quattro arti e due ali. Quattro arti e due sedili. Esatto. Le ali sono fatte di fumo, praticamente, e sbattono. Che cosa fate? Ma è... Sbattono perché c'è vento? Cioè, nel senso, sembra ostile? Come c'è lui. Non diresti, almeno, non vi ha ancora attaccato. Tirate l'iniziativa, vediamo chi agisce per prima. Non mi ha ancora attaccato, ma... Vabbè, Katta, è come dire che io non posso fare nulla, praticamente. Posso fare un tiro anche di natura per sapere, tipo, se... Se io so se sti draghi qua sono ostili. Sì, nel tuo turno. Se il drago d'argento, sì. dice la razza. Sono razzista io, però. Purtroppo in questo gioco invece è un concetto molto solido. direi che è conoscenza abbastanza comune. Work life che... matter. Esatto. È conoscenza... come l'ex arcana dove non c'è il razzismo. È vero. Come non c'è razzismo? Come non c'è, tutto il tempo portiamo, gli ebrei. Lo portiamo noi. Comunque faccio 8 di iniziativa, Katta. Lo portiamo noi. Cioè, non si pone neanche il problema. Voi non siete degli ebrei. Come c'è chi porta la democrazia, noi portiamo il razzismo. Cioè, una volta che sei cittadino romano, sei cittadino romano. Esatto, le altre sono bestie. Non ci sono una cosa, esatto, di razza. Sì, perché appunto, non c'è l'ultimo combattimento, okay. Cioè, il cittadino romano è quello inferiore, ma se l'inferiore viene chiave di cittadino romano è un cittadino. Patka ha fatto 8, Race 12. Ok, Athanas? 16. Bardistan? Io sono molto sopra la mia media nell'iniziativa. 6. No, 6. No, non molto. Sono un po' sopra la mia media, che credo sia 5. Fortuna? Sfortuna? Marco? Va bene. Garrosh? Io tiro con vantaggio. Tiro con vantaggio. Ma tiro con vantaggio. 19, ti ho fatto un 19 e un 20. Sti cazzi. Wow. 22. Anche l'altra volta hai fatto 22. Vai, show, attacca il fuoco. 5. Ah, ok. Ce n'è uno sto di me, allora. Ok, Garrosh. Vedi questo draghetto di fuoco che si forma nel camino e sbuffa e soffia. Ira. E ma no. Fumo. Ok. Ma... viene fuori o appare come dal nulla? No, viene da dove c'è la cenere del camino. Il fuoco si accende e lui spunta dalle... okay. È lì dove ci sarebbero le fiamme del sì, camino. Il mio istinto è di picchiarlo. Ma è grande come un gatto, tipo. Sì, praticamente sì. Va bene, il mio istinto è di picchiarlo, gli do una martellata in testa. Ok, tira senza andare in ira, però sì, gli do una martellata, se la meriti. 26, 19 di dado, sto tirando male. Lo colpisci. Dove? Tutto qua. Wow, e gli faccio 11 danni, 7 su un okay. D8, sto sempre tirando male. È col martello che lo colpisci, va bene. Sì. È ancora argentato, Sì. E lo disintegri in un colpo e praticamente nel momento in cui vibri su di lui questo colpo fatale, esplode in una conflagrazione di fiamme e fuoco. E tutti presenti nella stanza mi fanno un tiro salvezza sulla destrezza. Merda, penso sia perché? Perché? Ops. Tutto questo per colpa di chi, scusami? Ah, e tu... posso dire che invece è stato Sceo a farlo, no? Non sì. Posso provare a nascondermi dentro al sarcofago. Allora, Giulio, uno l'avresti fatto anche tu. No, solo... non sì, vo- sì, no. Sì. Se avessi iniziato sì. Prima io, non l'avrei fatto. Se mi sarei avvicinato con un bastoncino e non gli avrei dato addosso, l'avrei falsissimo. Toccato. Falso come la merda. Non è vero. Non lo sapremo per mai. Per cui, vabbè. Due, non essere invidioso. Non tre, sono invidioso, non l'avrei mai fatto, perché io non faccio queste cose tre, a caso. Tre, devo altre cose a caso. Tre, devo dire, finalmente Sceo ha giocato da barbaro, cazzo. Bravo, Sceo. Vabbè, cosa doveva fare? Io no, è vero. Cioè, ha fatto una cosa ignorante da barbaro, ha fatto la cosa giusta. Sì. Cosa devo tirare? Tiro salvezza sulla destrezza, tra l'altro tu dai un sacco di bonus. Tutti voi avete un più tre. E io... e io ho un vantaggio anche. Ah. È vero, è anche vantaggio. Oh, nel dubbio faccio sempre 6, quindi è un bel 9. Sì, posso far notare che con un più 9 ho fatto 12. Io 18. Io 26 e ho evasion. Io 17 col più 3 di Vardy. Attenzione l'Arcane Trickster. Succatemi. Va bene. È perché okay. Col suo carisma quindi chi ha fatto sfortuna lo passa, chi ha fatto sotto invece no. Cioè sono fatto sotto a cosa? Si è fatto 26, cazzo. L'hai passato. Ok. Sfortuna ha fatto 12 e lo passa. Chi solo ha fatto io meno non ho, solo io non lo passo, mi sa. E quindi chi lo passa di mezza. Quindi si prende solo... E tu no, è vero. 12 danni. Tu non di mezzo, Sala, li prendi tutti. E non di mezzo se ne prende 24 di fuoco. Ale! Io ne prendo zero. 12 danni? Bastante. Sì. Ci ridici un po' come... Vabbè, no, siamo tutti cool, giusto? Sì, ora io non più. Questo ve lo faccio vedere perché... vale veramente la pena. C'è chi è più full di altri. Mi vedete? Aspetta, sì. Più o meno sì. Il telo da mare. Comprato questo telo da mare. Ma che bello è essere Arci. Che sfoggerò in spiaggia. Sì. Ed è insieme alle cuffie. Guarda qua. Sì. In spiaggia di giovedì, Vets, perché sono i classici giovedì al sì, mare. Sì, esatto. Bellissimo, raga. Strafigo. Chi non passa il giovedì? Guarda, l'unico peletti... piacere personale della settimana è che piove tutta la settimana e quindi Arci non ci può andare. È l'unica consolazione che mi rimane. Ma io esce il giovedì di casa e lo fa... sfoggerò sì, ad agosto. Non senza ombrello, senza niente. Sì, tra l'altro in realtà è... Tra l'altro, in realtà, con chi sfoggia questo telo, visto che ci vai quando non ci va nessuno, più o meno. Ma è top. Ci andrò ad agosto, rega, oh, cosa vuoi? Ma ci va quando gli pare, cazzo, ha vinto. Ha vinto. Grande, sei un grande. E sala, immagina la musichetta sotto, I bless the rains down in heaven. Sì, esatto. No, io ho grande metti... rispetto per Arci. Vive la vita ideale. Vive la vita ideale. Esatto. Sì, beh, per lui il Covid è stata la svolta. No, no, in assoluto, dai. Esatto, anche senza il Covid era una gran mano, però. In che senso? Il Covid è stato ha reso anche la mia una buona vita per un periodo. Ok, le ceneri nel fuoco si spengono dopo l'esplosione. Che cosa fa? Ma perché col Covid? Scusate, perché col Covid è cambiato qualcosa? Certo, non dovevo andare in quel posto di merda. È cambiato tutto. Un giro da Garrosh, non capisco. A te niente, l'unica cosa che hanno fatto è che non facevano uscire la sera, ma cosa non ti interessava? Uscire la sera, eh? Esatto. Quando mai? Allora, io guardo mai Garrosh e me ne vado nel corridoio. Sì, tu cerchiamo di suicidare. Tu stavi tenendo la concentrazione su Detect Magic. Quindi vedi se riesci a perdere o sono ancora. Ormai è andata. Guardo male Garrosh, me ne vado nel corridoio da solo, strimpellando un po' di musica e ignorando bellamente cosa fa. Ok. Il PF ce l'ha tolto. Andiamo a bruciare la casa. Esatto. E questa volta è la casa che ha bruciato voi. Che ironia. Bene. Garrosh, cerchiamo di non suicidarci prima di aver finito. Grazie. Da che pulpito e andiamo avanti. Infatti non ho mai attivato questo trappole. E ringrazia che il mio personaggio non c'era nella villa della prima sessione, ma ce n'era un altro, perché sennò ti potrebbe dire che ti compri. E poi non c'è più stato, però, per cui noi cerchiamo di non fare un revival. Ma io non ho mai attivato trappole, Garrosh. No, cioè? Ma davi fuoco alle cose, ti è andata bene che non c'erano trappole. Allora. Però io so cosa dare fuoco, al contrario tuo. Cosa posso colpire? Allora, il volta che vedo un drago lo accarezzo. Il me giocatore è molto compiaciuto con Sceo. Il me personaggio lo è meno con Garrosh. Va bene. Raga, okay. La prossima volta che ho una bestia potenzialmente ostile, le darò un zuccherino e la carezzerò. Che devo fare? Ecco, bravo. No, non è questo il discorso, Garrosh. Tu sei la nostra... sei il nostro pugno di ferro. Ma dobbiamo stare cauti in questo luogo, amico mio. Questa qua? Sì. Io sono calmo. C'è solo quella, no? Io sono calmo. Fate che sono davvero calmo. Ho fatto una cosa che per me era molto logica. Garrosh, c'è la porta di fianco. Esatto. Non si apre questo muro. Grazie per l'idea. Lo faccio. Io sono calmissimo. Arrivi al bastione. Q7. Oddio. F4. Ah, ma chi è che sta salendo lì? Giulio? Hai controllato che ci fossero trappole prima di aprire la porta? No, quello no, ce no, le scardini tu. Ah, sono è Arcane okay. Trickster che deve fare sta cosa, ma guarda come sta indietro. E come, scusa? è vero, in una stazione di gioco. Ma guarda come se ne sta appiattito contro il muro più lontano. Non ho capito, in questo bastione ci sono dei drappi di velluto che coprono le finestre alte e strette. E tutto il mobilio chiaramente è completamente rovinato e c'è, che penzola dal soffitto, un candeliere di ottone danneggiato. Che è coperto da questo candeliere. come dire, una decorazione che raffigura draghi metallici e uccelli colorati. Che... Ah sì, sblocchiamo più livelli. Io, Katta, perdonami se ti interrompo, ma approfitto di questa descrizione per farmi un Lay on Hands di 24, che è quello che ho subito. Sì, hai subito sì. 24. Così mi rimetto a posto. Bene, dopo di Atanas, Race. Ci mi rimangono 16. Boh, seguo Atanas. Ok. Mentre Pat... Pieno di iniziativa. Ah no, allora... più che altro è che non voglio morire, quindi non voglio andare da solo e crepare come uno stronzo. No, no. Pat... Quindi lei si ammazza drago. Non capisco, cosa? Ma io ho già disattivato le trappole che c'erano l'altra volta. Non vedo... Il drago è già bello che è morto ed esplode. Che cosa fai, Pat? Allora, un attimo. Scusami, Katta, lì dove c'è Vardistan è una porta. Sì, Vardistan è entrato dentro il bastione. No, sì, non c'è... è entrato dentro il bastione. Sì, io lo seguo comunque quando posso. E anche Race. Vardistan, Atana, non ce la possiamo. Vabbè, io quando posso lo seguo. C'è una porta lì da Vardistan, quello dico. Sì, sì. È quella da cui siamo entrati nel salone. Ah, ok, no, allora vado... No, no, torno su. Vabbè, sì, non ha senso dividerci, direi. Vado nel bastione. E divento orso. E vado anche nella porticina lì a destra. E divento bestione. Lì cosa vedo? Lì non ci siamo mai andati ancora, no? Qua non ci siete ancora andati. Qui vedi un ingresso, queste sono delle scale che vanno verso il basso, e questo è un cancello di ferro. E le altre scale vanno verso l'alto? Esatto, e dall'altra parte c'è un altro, esatto, c'è un'altra porta. Quanto mi rimane il movimento? Il piano superiore del bastione non si accede qua. Qua no, cioè sopra di te c'è dall'altra parte, un tetto decorato dal quale, quello dal quale pendola il candelabro con appunto tutte le raffigurazioni di draghi metallici e uccellini. Si è messo lì proprio per stare da solo. L'alto bastione e passo. Va bene. Vabbè, però non lasciamo, non abbandoniamolo. Cioè, Pat Vardistran, tu segui, hai detto Atanas. Aspetta. Guardo Garrosh, però c'è anche io, andare tutti insieme in realtà. Vabbè, Garrosh ha appena attaccato il draghetto, quindi... Vai, andiamo tutti insieme, poi vediamo. Va bene. Abbandoniamo Sfortuna, quindi. Esatto, Sfortuna, tu sei qua che stai canticchiando la tua canzone, cosa fai? Mi faccio l'illusione di una botte. Ok. Stai lì o ti metti in un angolino? Angolino. E faccio una performance. Ok. Per chi? Perché, soprattutto? Per lo spirito del drago. Tirami questa performance. Perché al massimo piacciono queste cose in fondo. 12? Cioè è una botte che suona, non ho capito. Sì, esatto. Sì. Ok. Eccoti qua. Che cosa stai suonando? Andiamo una lira. Stai suonando una lira. Okay. Vogliamo bruciarti la casa, sono vogliamo bruciarti la casa. I ciuppi. Senti che la vibrazione delle tue corde ogni tanto viene accompagnata da un sibilo simile a quello che si è sentito quando siete entrati e che viene... praticamente come se entrassi in risonanza con alcune frequenze, con alcune note. Quindi se ti metti lì puoi provare a capire quali sono le note, diciamo, più adatte per farlo sentire e cercare di capire questo suono che per qualche motivo si sente mentre suoni. che tipo di diverso è, che tipo di suono è. Quindi prossimo, se continui questa tua performance, puoi investigarlo meglio. E, bene, questa è la sfortuna. Garrosh, sei io mi affaccio alla... di fronte al caminetto. Mi affaccio alla porta dove c'è sfortuna. Quindi sì, in... dai, faccio andare avanti insieme. Appunto, voglio chiamare. In che senso? Ah, ok. Vai, parte loro. Vai, noi altri faccio andare. Stai calmo, Vez, io vengo con voi. Posso fare il mio turno? Abbiamo tirato iniziativa. No, seminiamolo. Non ti fermare, Garrosh, parla senza ascoltare. Seminiamolo. Carico Vardistran. Ok, tira lì. Vai. Prossima volta che mi interrompe lo faccio. No, volevo dire a sfortuna di seguirci perché stiamo andando dalla parte opposta. Va bene, come vedi qua, esatto, vedi una botte e senti della musica. Vabbè, posso capire che è lui. No. Intelligenza. L'abbiamo già visto mille volte fare ste minchiate. Attacca la botte. Attacca la botte maledetta. No, vabbè, puoi intuire che ci sia, che lui si sia messo dentro una botte e stia suonando da dentro la botte. Esatto, dai, dico sfortuna, noi andiamo dalla parte opposta, seguici e poi vado dalla parte. E poi va bene, poi vai. Ok, questo era Garrosh. Athanas. Faccio mente locale su dove potrebbe essere l'armeria in questo castello. In un castello, in generale. Secondo me, dove... Allora, secondo te l'armeria dove può essere? Di sicuro in un posto impervio alle impervio agli attacchi, quindi facile da difendere. E, in genere, per le tue conoscenze, diciamo, delle strutture che sopportano gli assedi, e di solito in questi piani ci sono o locali di rappresentanza o quelli della servitù che appunto lavora per servire quelli che stanno nei locali di rappresentanza, quindi è possibile che ci siano dispense, cucine, queste cose qua, e quindi è probabile che se c'era un posto in cui tenevano le armi, questo sia ai piani superiori, dove soprattutto venivano prese per difendere i piani alti, le mura. E, ok, sì, allora vado avanti cercando una scala per salire sopra. Allora, la scala per salire sopra che hai visto era questa qua. Ah, giusto. Nella stanza. Prosegui per il corridoio fino all'altro bastione o torni sui tuoi passi? Intanto che ci pensi, Race. Torno sui miei passi. Ok. Scusate, da giocatore off game, noi siamo qui in teoria per interloquire con... Cazzo. Cosa? Mi confondo sempre. Dicevo off game, noi siamo qui in teoria per parlare con loro, per parlare col loro capo. Sì. Il Sir Oriordan vi aveva detto convincetelo a muovere battaglia. Tu vuoi convincerlo entrando nella sua armeria? Non mi ricordo chi vi aveva detto che invece la sua intenzione è proprio l'opposta, cioè la situazione che si è creata è immutabile, però in questa situazione Strad è condannato a soffrire in eterno per il suo peccato originale, e quindi lui adesso desidera esattamente l'opposto, cioè impedire che Strad venga, tra virgolette, salvato da questa situazione. Sì, perché e se quindi... Strad muore è salvo dalla sua maledizione. Cioè, quando, esatto. Quando Yakli dice congratulazioni, lui dice grazie. Io arrivo lì e vedo una botte che suona. Che suona, esatto. Sì, già visto. Questo era Athanas. Race. Io voglio rimanere sempre nei paraggi di loro, quindi li seguo. Ma Athanas dice qualcosa agli altri per cui è tornato indietro, il motivo per cui è tornato indietro? O no? Non lo so, Athanas dice qualcosa agli altri? No, avete visto che ci pensavo un attimo e poi torno indietro. Allora, si sarà dimenticato qualcosa. Ok, Ray, se vuoi stare la con mascherina. Gli altri... sì, il resto con gli altri, con Vardistran e Garrosh. Ok, ti metti in follow. Patk. Arrivi dall'altro bastione. Aspetta, non vedo una minchia. Fin dove arriverei con il mio movimento completo? La porta apposta ci arrivo. Sì, riesci ad entrare dentro l'altro bastione. Vai. Dai, andiamo. Allora ci splittiamo. Sì, a quanto pare. Ma perché scusa, rega, voi dove volete andare? Giulia è appena tornato indietro alla ricerca dell'armeria. Lo scoprirai. Allora, arrivi qua. Un ovo. Se Giulio Inta non è colpa mia. Ok. Cosa vedo? Ci sono questo bastione ci sono che coprono le finestre dei drappi marroni rovinati, vecchi e rovinati. E, c'è una pesante lenzuolo, una tenda, scusa, una pesante tenda che copre l'ingresso alla stanza che c'è qua di fianco. E sparsi per terra vedi una serie di giacigli praticamente rovinati. Allora io dal tempo mi sporgo dalla porta da cui sono entrato e urlo agli altri: una descrizione, fuggire! Tutti a terra, troppo tardi. No, scherzo, ok. E da questa finestra vedi che c'è un cortiletto che dà recintato, all'interno del quale ci sono delle tombe. E scostando lì... questa tenda pesante, cioè, vedi che dietro c'è una cucina. Rendimela luminosa, bravo. Sento dei rumori particolarmente strani. Rumori strani. Senti lo squittio di un qualche tipo di roditore, che tu sai benissimo essere quello di un pipistrello. Quindi COVID. L'animale più pericoloso del momento, dato che COVID. E ce l'hanno in cucina? Beh, chiaro. Ce l'hanno in cucina. Cinesi! Io sono un druido ignorante. Seriamente in cucina? I pipistrelli sono dei roditori? Sì. Beh, sì. Sono dei topi con le ali. Certo. Mai nella vita. Ma delle battute davvero in cucina. Come mai nella vita. Perché no? Secondo me sono dei roditori. Non sono roditori. I roditori sono tipo i castori, e i conigli. Sì, ma i pipistrelli no. Mi sa che sono roditori, tra l'altro. Cioè, avrà un sotto spesa. No, i pipistrelli non sono roditori, rega. Ma neanche secondo me. Allora... I conigli sono roditori, se proprio vogliamo essere... I conigli non sono roditori. Vabbè, va bene. Se il coniglio è un roditore, allora sono molto. La mia vita è stata. I pipistrelli sono chirotteri. No. Esatto, ma i pipistrelli che non fossero roditori era abbastanza chiaro. Però... Non a me. Va bene. Esatto. Si scopre una cosa nuova. E, quanto movimento ho a Cat ancora disponibile? Riesco ad andare nella porta opposta alla tenda che ho appena spostato? No, non ti riesci. E invece è il secondo gruppo di mammiferi più numeroso dopo i roditori. Ah, questa qui. Beh, il coniglio non è un roditore, scusami. No. E cos'è? È un lepori, credo. Ah, e qua dice il termine coniglio significa... Ratti, topi e scoiattoli. La seconda portata di carne bianca da servire dopo il primo piatto. Ma infatti a un topo non crescono i denti davanti all'infinito, non è tipo un coniglio. Leporidi. E questo era Patrick. Vardister. Rega, sono le basi però queste. Il castoro non è un roditore? No. La marmotta su un allevamento sì, di no, neanche il castoro. Un castoride? Ma allora, i roditori non esistono. Qui ci sono nutria, nutria, istrice, scoiattolo, marmotta, quercino, moscardino, ghiro, driomio, topolino domestico. Ma questi sono quelli italiani in realtà. Sì. Beh, comunque c'è un sacco di roba, rattonino. Guardi strano, cosa fai? Sì, c'è un sacco di roba, ma non c'è. Rimango allibito dal fatto che il pipistrello non sia un roditore. No, detto questo, seguo Pat. Ha le ali, ha le fottute ali e vola. Sì. No, no, beh, ci sta. Il piranha deve essere un roditore anche lui. No, beh, chirotteri l'avevo già sentito, quindi ci sta. Allora a sto punto anche le balene, tanto sono mammiferi uguali, no? Le balene però, anche. Beh, però è più simile a... Delfini. Però è più simile a un topo il pipistrello rispetto a una balena, questo possiamo... Sì, ma non è che la definizione di roditore è che assomiglia a un topo, no, sono un sacco di persone. No, però per dire che saranno due gruppi non così lontani. No, no. Va bene. E grazie tipo, io... per... Lo speciale di National Geographic. Lo direi. No? Cosa? Non lo so, non lo so, non mi sbilancerei però. Diciamo che in epoca medievale puoi dire che era anche un editore, non c'entra. Sì. Fortuna. Probabilmente sì. No, nel senso è anche un demonio tra le altre cose. Esatto. Allora, è vero che la classe è comunque quella dei mammalia. Quindi, qua dice comunque roditori maschio delle rodimucche. No, nel senso che quelli che ci sono tra l'ordine e la classe sono la sottoclasse, l'infraclasse e il superordine. Wow, ma com'è che ci siamo spinti in questa discussione? Sfortuna, cosa fai? Puoi fare un blast ai due corredi genetici, però. Mi posso dare guidance? Sì, direi di cioè, guida. Mi do guida e inizio a continuo a canticchiare. Dai, faccio un'altra performance. E canticchio un po' quello che vedo e faccio 27. Perfetto. Riesci a trovare le note che accompagnano il suono che senti e questo sibilo diventa delle parole che accompagnano la tua canzone. Anche noi lo sentiamo. No, lo parte. Sente solo lui perché chi è lì nel senso no perché è un diciamo un è come un una frase detta sottovoce. Lasciami parlare in serpentese, scemo. Esatto. Più o meno l'idea è quella, infatti. Beh, comunque sottoclasse e infraclasse sono le stesse. Vabbè. Cioè, ma super... anche l'uomo. Cosa vuol dire, Lezzo? Allora appartiene al regno degli animali. No, nel senso, dopo mammalia, come classe, sottoclasse e infraclasse, tra roditori e chirotteri sono le stesse. Cambia il superordine. Va bene. Mm. Beh, rientra anche nella classe degli esseri viventi come il ciclamino. Ritardato. Adesso guardiamo gli uomini. Esatto, il ciclamino. In effetti il virus è più lontano. Adesso guardiamo e quindi deduco si possano anche accoppiare. Ci sono i denti. Ti accoppio io. Forse con i denti di leone. Va bene, basta. Dai, capisce, sfortuna, Marco. Le parole che capisci sono le seguenti. I miei cavalieri sono caduti nelle tenebre. Salvali se puoi, mostragli la luce che hanno perso. Beccato la compagnia sbagliata. E con questo la sua voce si affievolisce fino a che non la senti più. Ok, questo era sfortuna. Vabbè, avete ragione, sotto classe e infraclasse sono lo stesso anche per noi. E vi dirò di più. Che noi abbiamo lo stesso superordine di uno dei due. Superordine, Vez, questo qua è il super direttore di il superordine mi sa che abbiamo lo stesso di uno dei due. Sarà il roditore. Vediamo se abbiamo le ali. Mi ha intrippato troppo sta cosa. Comunque adesso Vez ti mando i cosa, adesso ti mando... Vabbè Vez, sembra che hai scoperto che il pipistrello non è un cetaceo. Vado verso... È interessante in realtà Atanas cosa. Perché sono curioso del fatto che abbia cambiato direzione, forse ha... Sì, hai ragione, Salla. Grazie. E vado vicino Bravo. Ad Atanas è molto vicino al mio lavoro. Ok, perché sei no, tornato ma via? Sono cose molto interessanti. Stimando perché secondo me di là facciamo un tondo, quindi o andiamo nei piani superiori a cercare l'armeria, che sarebbe interessante, oppure andiamo dritti a cercare il mausoleo. Ma quindi che è Garros che è tornato dal suo padrone Giulio? Esatto. No, è che mi ha ho visto lui sovrappensato. Mi ha incuriosito! Atanas, tocca a te. Però vabbè, poi dico, vabbè, possiamo comunque aspettare gli altri mentre... Split in the party, ma chi è col druido di solito vince. Va bene, magari possiamo dare un'occhiata alle porte, ma rimanenti, senza entrare nelle stanze, magari apriamo e diamo una sbirciata. Boh, se vuoi darci un occhio. Va bene, io farò quello. Se vuoi darci un occhio. Io mi piazzo sulla... Apre la porta, vedo una D. Controlla meglio. Quindi, c'è una E dopo la D. Meglio non guardare. No! Ok, ti siedi sulle scale. E qui c'è un arazzo. Cosa rappresenta l'arazzo? Un drago? L'arazzo è... Ah, Giulio chiede pure cosa sono le descrizioni. Q3. Ma secondo me ha ragione lui. Più descrizioni facciamo, forse è più facile fare il livello. Secondo me dobbiamo Dimmi di più di questa descrizione, ti prego. Esatto. È un razzo strappato in alcuni punti e ormai senza valore. Raffigura un nobile lord. Un roditore, comunque. Comunque anche gli H ha dato il suo contributo. In armatura d'argento. Cosa? Anche gli H ha voluto dare il suo contributo. Il pipistrello non è un cetaceo. Grazie, ecco. Questo nobile uomo, molto affascinante, ha un'armatura d'argento e uno scettro, praticamente una verga. Una verga, esatto, di ferro in una mano. If you know what I mean. Dico, beh, sfortuna, quando vuoi tornare dei nostri, giocare, sentiti libero. Giocare? No, non è vero, ha fatto più cose di me. Dove vai, Pat? Ma vedo riapro la porta, qua. C'è una porta qui in fondo e una porticina di fianco. Vado in quella in fondo. Il chirottide, dov'era esattamente? Chirottero. Era in questa stanza. No, non lì, Katta, non lì. Sì. Quindi era delusione, sì. Arx. Era in cucina e quando siete entrati si è spaventato ed è volato via. Do un'occhiata rapida e poi mi rimetto sulla soglia di quell'altra invece. Ok, occhiata rapida vuol dire non devo leggere tutta la descrizione. Vabbè, no, ora che l'hai eliminata, prima che parta la descrizione, corro verso l'altra cosa. Comunque qua ci sono 5 barili. Dove me lo stai sparando? 5 botti di legno. E in questa... è la ricerca di piena di muffa. Ma su WhatsApp? Sì. Questa roba. È un sito che ti dà la distanza evolutiva e il momento della divergenza stimato tra diverse specie. Adesso non farlo, scopriresti cose che non ti piacciono. Il nostro bello, però devo metterci cose dentro io. Puoi fare anche il confronto tipo rodenti a chiroptera e vedere quanto sono lontani. Vorrei sapere i nomi. Il nostro più vicino. Rodentia, scritto rodentia, e chiroptera, scritto chiroptera. Sono latini. Tipo, scopriresti, Vez, che la differenza tra te e una scimmia urlatrice è solo il fatto che lei urla un po' di più. Ma quello lo so. Che il poi non è vero, però. Vabbè. Urlo più io? No, urlare dai, non urli. Allora, qui arrivi entri nella stanza del praticamente da... Ah, ok, riesco a entrare anche lì? Sì, sì, tranquillamente. Cioè, tu mi hai detto, arrivi qua, apri la porta, guardi cosa c'è dentro e poi apri l'altro. Esatto. Tranquillamente. Chiudo gli occhi! Allora, niente. Ah. Ok. No, tocca... adesso vuoi la descrizione. È difficilissimo da leggere, Salla. Sono in tank, Katta, è la mia la descrizione. Bravo. Questa descrizione ti fa 20 piedi di tavolo di fronte a te. C'è un tavolo lungo 20 piedi, le cui 4 gambe sono scolpite, sono intagliate per raffigurare 4 dragoni. E, le sedie che circondano il tavolo sono in pezzi, ma quello che rimane... niente. Sono state distrutte completamente. Sospeso sopra il tavolo c'è un candelabro di cristallo che brilla di una strana luce bianca. Madonna, finalmente il primo loot. In questi angoli ci sono due alcove, dentro le quali ci sono due statue. Queste statue raffigurano due cavalieri a grandezza naturale, con degli elmi decorati con ali di drago e uno scudo anch'esso decorato allo stesso modo. Mi sembra che la stanza, che tipo le sedie o comunque diciamo così il tavolo in cui ci si può sedere attorno, sia stato abbandonato da poco? Tipo? No, è abbandonato da diversi anni. Okay. E quindi nessuno l'ha usato di recente. E si capisce questo, dico? Sì, si capisce, anche dalla polvere e da diciamo, i segni del tempo. In questo angolo c'è una pozza di acqua piovana che è filtrata dalle crepe del castello. E ci sono cinque coppie di porte di legno, appunto una che vedi che era già semiaperta, dal quale intravedi la stanza dove siete entrati, quest'altra che porta in quest'ala del castello e le altre due, questa che hai visto di là, e un'altra che porta alla zona in rovina. Ok. Beh, magari ovviamente tipo dopo che vedo che la zona è sicura, tipo faccio un cenno o un urlo agli altri per dire... Via libera! Questo era Patk. Vardistran. Ma ormai l'ho distratto. Quindi Arci non ha guardato, cioè ha guardato semplicemente che non ci fosse un pericolo nella stanzina, ma non ha guardato. È entrato qua, esatto. Allora fammi andare a vedere cosa c'è lì. Ok, qui ci sono queste cinque barili di... Mi spiace Arci, te la becchi lo stesso la descrizione. Esatto. Io il metodo ve l'ho insegnato, è giusto che camminate sulle vostre... Ah, gambe. Ma qua c'è sfortuna, sono gli amici di sfortuna, quindi. Cosa? Hai detto che ci sono delle bozze. Esattamente. Quanto hai di percezione passiva? Cattabriga, secondo te? È una cosa che stupido roditore. In teoria secondo abbastanza. Che saggezza dovresti avere un po'. Non ho niente di saggezza. Hai ragione, non hai niente. Ex paladino dei miei stivali. 10 ho. Ok, va bene. Posso però tirare un perception per fare un po' meno? Troppo tardi. No, puoi tirare un perception. E ti stupirò con... Ho fatto 3 tiri di dado e sono tutti e tra lo stesso numero, 6. Va bene. Quindi era meglio la passiva. Assolutamente, che però è quindi è quella che conta. Vedi questi vecchi barili della buffa. Race, lo segui? Certo. Ma sono vuoti? Per te sì, Vez. Per te sì. Ne picchi uno per sentire il contenuto. Sì. Ok. 1000 draghi di argento escono. Non riesco a stare nella stanza. Ma avete tirato 6. Sono vuoti questi barili. Tu fai toc toc e ti risponde chi è? Chi è? Serio? No, scherzo. No, non ti risponde chi è, ma senti una voce che dice: aiuto, aiutatemi. Ah, tolgo il piede da quello di Race che sto pensando. Pensavo da quello del nero che ho, vabbè. No. Questo per commemorare la giornata. Ok. Da dentro la botte, quindi? Da dentro la botte, sì. Rieccomi. So bad. Non starà ancora a me, immagino, ma se sta a me la apro. Puoi spostare un asse della botte per rivelarne il contenuto. Dentro, nascosto, c'è un elfo del crepuscolo. Uey. Quindi Casimir. Un compagno di villaggio. State tra poco. Quindi, ce ne mancava un po'. Ha le orecchie, no, sì, lui ha le orecchie, l'unico che non ha le orecchie è Casimir. E è gravemente ferito. Ok, gli faccio... Bastano 2 punti ferita? Sono anche troppi. Allora 1. Va bene. Si sente un pochino meglio e riesce a reggersi in piedi. Con Leonetta, nei suoi occhi brilla la riconoscenza nei tuoi confronti e ti dice: nobile cavaliere, mi ha salvato la vita, non so come ringraziarla, posso sapere il nome di questo benefattore? Mi manca uno che si chiamava Casimir, ma allora togliti le orecchie così assomigliai più. No, scherzo. Casimir. No, non gli dico questo! Catta! Va bene. Ovviamente gli dirò qualcosa del tipo: amico, Mellon. Cosa ci facevi in questo luogo così ostile? Sono bloccato qui da giorni. Da giorni? Sì, voi non l'avete ancora visto lui, non era presente tra quelli che avete portato a Kretsk. Mm. E infatti vi dice, io sono stato mandato in perlustrazione per cercare Arabella, la figlia scomparsa del capovillaggio dei Vistani. Turu turu turu tu, Arabella. Ah, non è la canzone degli Arti Monti. Che ci frega dei Vistani? Quella che abbiamo salvato. La bambina che avete trovato. La che abbiamo preso noi. Ed mi sono addentrato in queste terre cercando questa bambina scomparsa. E sono arrivato in questo castello, ma sono dovuto scappare da dei lupi feroci e una volta qui dentro sono stato attaccato da un'oscura presenza. Per miracolo sono scappato e mi sono rifugiato qui dentro. Ma io Arabella l'abbiamo salvata parecchio tempo fa. Più di una settimana. Che ironia. Solo così poco. Ci sono tipo 30 sessioni, sì, ma in realtà è passato un anno nella vita reale, però sì, non è però il livello non mente. Non così poco, dai. Il livello non mente. Esatto. Cosa vuol dire questa parola? Salla? Arabella, non era quella del lago? Sì, esatto. Sarà passato un mese. È stato inseguito da un branco di arbusti maligni, quelli che avete combattuto nella vineria, e quindi è gravemente ferito, ha trovato rifugio in questo castello, ma non riusciva più a muoversi per via delle ferite e dalla paura di essere scoperto. Perché? Perché? Ma eri solo, quindi? Come ha detto? Eri solo? Sì, sono uno scout, sono stato mandato in esplorazione per coprire questo parte di terreno. Bravo. Comunque piacere, io sono Vardistrand, diciamo che da quando ti sei allontanato sono cambiate molte cose. Ah sì, e che cose? Beh, ci siamo noi. Siamo capitati noi. Vallachi ha cambiato regime, per così dire. È vero, gli umani spesso e volentieri fanno di queste cose. Ora c'è il controllo di Lady Butter. Capisco, gli umani non apprezzano la stabilità di rimanere sempre nello stesso posto per secoli e secoli. Disse quello dentro il barile. Ad ogni modo anche Kretzka ha cambiato bandiera. Che cosa succede? Ora comando io! Wow, come l'avevo presa? Non gli dico così. Ora Kretsk è l'ultima fortezza libera rimasta a Barovia. Esistevano fortezze libere? Ora c'è! La prima! E lì vivono insieme uomini, corvi ed elfi. Tutti quelli della tua specie rimasti si sono trasferiti con noi lì. E ora insieme, e anche tu sarai uno dei nostri alleati. Le tue parole lo stupiscono. Rimane basito. F4. Dice, incredibile, non ci credo. Stannis? Il saggio Fingolfin. I sceneggiatori lo leggono quello che scrivono. Comunque è partita la petizione per avere una quarta stagione. Sì, no, non la devono fare però, perché uno degli autori non c'è più, non ha più senso. Sì, è vero. Ormai è finita. Mi hanno consigliato Butta Fuori, che è fatta dagli stessi autori, e si trova tutta su YouTube. Io ho detto liberi tutti, ma voi non mi ascoltate. Ho ascoltato, Sala, anch'io la voglio vedere. Lo devo vedere, è nella watchlist. Guarda, adesso mi metto a guardarla adesso. Quindi sì, lui è sì. Senta credere alle tue parole, non posso guardarla. E gli dice, ma come mai arrivati a tanto, e soprattutto non rischiano ripercussioni? Perché mi hai sconnesso? La storia è lunga, ma adesso non abbiamo tempo per queste cose. Ma intanto che siamo qua, io e i miei amici siamo qua. che stiamo cercando di parlamentare con il capo dell'ordine del Drago d'Argento. Ah, capisco. Tu l'hai visto? No, e non ci tengo, è una cosa molto pericolosa. E posso, cercherò di aiutarvi come posso, ma vi avverto che non è un tipo molto incline alla diplomazia, da quello che si dice, perlomeno da nei secoli in cui si sono insediati. Noi abitavamo queste terre da ben prima dell'insediamento dell'ordine del Drago d'Argento, e mi ricordo addirittura lo stesso capo dell'ordine, Arginbost, uno splendido drago che era solito assumere forma umana per mescolarsi tra la sua gente, e un drago molto nobile che hanno davano sempre aiuto e rifugio a quelli che Arginbost stavano. Catta, scusa. Si chiama Arginbost. Mentre c'è questa declamazione, cioè immagino che si senta comunque. Sì, sì, sì, sì. Noi stavamo lì dietro. Okay. Vabbè, tu Race sei lì dietro, tu ti affacci anche Garro. Si sente parlare. Attenzione che arriva Garrosh a caricare. No, Garrosh. Esatto. Ostile! E hanno dato rifugio a tutti i profughi che sono fuggiti nella valle dopo che Strahd invase le terre confinanti, ma quel malvagio barone conte, scusate, il malvagio conte ha invase anche questa valle e uccise tutti senza fare distinzioni. I suoi soldati uccisero lo splendido drago d'argento e distrussero l'ordine. Hanno saccheggiato questo castello, come potete vedere. E quindi mi pare di capire che un'antica amicizia ci fu un tempo tra elfi e paladini. Vivevamo in armonia, chiaramente. I paladini erano votati alla protezione dei più poveri aiutavano sempre i più sfortunati e proteggevano i deboli da malvagi. Come si chiama l'elfo? Il ruolo del paladino è cambiato molto nel corso degli anni. Non l'avevo detto, effettivamente. Ok. Perché il ruolo del paladino è molto cambiato. Come hai detto che ti chiami? Cosa? Savid, mi chiamo. Savid. Molto piacere, signor. Come si chiama? Savid. Covid. No, SARS-CoV. Di solito sia noi elfi e anche i nostri amici vistani evitiamo questo castello. Mi sono perso qualcosa. Non avete più amici vistani? Come non abbiamo amici vistani? È da secoli ormai che conviviamo nel nostro villaggio. Le cose cambiano. Ti distrai un attimo. Esatto. I vistani vi hanno pugnalato alle spalle, ma come? È terribile. Sì, erano tipo cercato di bruciare il vostro villaggio. No? Esiste ancora una speranza. Quale speranza? Verremo ucciso. Noi siamo la speranza. E mostra il mio simbolo sacro. Comunque, più seriamente, ho esplorato un po' il castello. Dove possiamo? Indicaci dove. Atanas, cosa hai detto? Chiedo se ha esplorato un po' il castello. Indicaci dove possiamo trovare il capo dei paladini. Oh. Immagino stia nei piani superiori, ma io ho troppo paura per addentrarmi oltre. E adesso che mi sento meglio, farò ritorno. Non so in realtà dove fare ritorno. No, aspettaci qua e poi andremo insieme verso Kretsk. Tu sei andato alla ricerca della piccola vistana parecchio tempo fa. Sei andato totalmente fuori strada e se fosse stato per te lei sarebbe morta annegata. Grazie per la consolazione. E ha detto, mentre ero ad esplorare alla sua ricerca, sono stato attaccato da un branco di arbusti maligni. E mi hanno inseguito e ferito. Che scusa è? Ti sei nascosto qua dentro dove non ti hanno seguito o li hai seminati? Io sono riuscito a seminarlo, sono uno scout molto abile. È un arcane trickster. Non si direbbe. Arrestato! Ma è un arcane trickster, arrestato! Fai percepire? Sì, come cazzo... Aspetta che devo trovare la mia scheda. Intuizione. Sì, quello che è. Cioè, secondo te non è vero che è un bravo scout e ti ha mentito in quel senso? Beh, chiaramente non è un bravo scout, però... anche perché la tizia era al lago e lui è tipo centinaia di chilometri. Loro non sapevano dove era la tizia, quindi sono partiti a cercarla in tutte le direzioni. Ho capito, non ha fatto un buon lavoro. Possiamo essere... A lui hanno detto vai a cercare in quella direzione, non è che diceva no. Sì, ho capito, non è che se dice vai in quella direzione arrivi in America. Che cazzo esatto, sei? Già uno scout cerca le tracce. Boh. Cioè, è come quello che ha cercato Van Richten e Smeralda. Rega, va bene, chi se ne frega. Allora, lui, il tuo Wasabi, aspettaci qua, nella sala. Faranno lo spin-off, Sal. E torneremo tutti insieme Correzzi. A Kresk. Sì, intuizione. Va bene, vi aspetterò qui, ma state attenti, mi raccomando, sì. È un posto pericoloso. 12 in intuizione. Le botti, alle 12 ti direste che non ha particolari motivi di mentire. Crede nelle parole che dice, ok. Però secondo me dal suo punto di vista lui ha ragione, ma dal mio... Non pensi magari comunque che sia un incapace? Rex non ha colto, mi sa. Non ho capito. No. Che dal suo punto di vista ha ragione. Ah, sì. No, c'è stata una discussione con Emma molto divertente, ve la racconteremo magari. Dal tuo punto di vista è molto divertente, dal mio anche. Okay. Le botti di questa stanza erano almeno del prestigioso Champagne d'Oulestompe. E anche cosa sono finite? Più pregiato della vineria del mago. E qualcuno ci sponsorizza? E sono finito o no? Purtroppo. O ce n'è sì, ancora? È tutto evaporato e c'è solo il legno delle botti. Oppure è diventato aceto. Vabbè, comunque io guardo. Però pregiatissimo aceto. A sto punto andrei io sopra, che forse c'è sì. Anche l'armeria, oppure al mausoleo. Lui ha parlato di sopra per trovare il capo. Non so. Io intanto, andrei capo, sopra. Non so se ti ricordavi, sbirciavo dalla parte opposta, porte che danno a sud in questa notte. Cioè, proprio qua. Aprivo e guardavo dentro e poi chiudevo. Ci sono i cazzo di ragni. C'è quello che ha verso le rovine. No, apro, guardo dentro e poi me ne vado. E ecco, pieno di ragnatele. Chiudo e me ne vado. E attraverso le ragnatele vedi muoversi delle nere grosse figure con tante zampe. Richiudo e me ne vado. Ma prima che e avverto gli altri che di là è pieno di ragni. Grazie. Vabbè, confermo. In questa stanza, se non si era capito, c'è una in luce... Perpetua è naturale, quella dove era entrato Patk col tavolone. Ah, quella col tavolo, ok. Che viene dal coso? Dal candelabro di cristallo, però non ci sono candele che... Le statue hanno le armi? Le statue sono raffigurate in armatura, e sì, hanno delle armi chiaramente scolpite nella pietra. Ah, ok, sono scolpite nella pietra, ok. Sì, sono statue. Una statua. No, scherzo. No, beh, perché se erano armi vere appoggiate nelle statue, io le toglievo. Le prendevamo, cioè. No, sono di pietra, di fatto. Per ora, almeno. Esatto. Come esatto, no? No, ma le statue sono... Nella casa c'era un'armatura con la spada. Sì, io gli ho tolto la spada, poi l'armatura si è animata, però almeno intanto non ce l'ho più fatto. Le statue sono di... molto verosimili. Però purtroppo sono inanimate. Boh, io vedo sfortuna, magari ci serviresti. Per far cosa? Tu rispondi per vuoi che animi le statue? Vuoi che le faccia ballare? No. Ma tu stai rispondendo? Sì. Così? Ah, ok. No, perché tu sei uno che sa individuare il magico e queste cose qua. Qua c'è qualcosa che non quadra. Sì. Vabbè, dai, rega, ci penso io. Sapienza magica. Toccava proprio a sfortuna. Boh, a me ci vogliono 10 minuti per preparare il rituale di Detect Magic. Quindi inizio. Ah, ci dice qualcosa nella stanza. Ci dice qualcosa delle parole del drago. No. No, Ma vi chiedo perché vogliamo trovare sto tizio, cosa speriamo di ottenere? Dobbiamo convincerlo a... abbracciare la causa contro Strahd. Io manderei Archie a uccidere. Io manderei Pat che sfortuna, secondo me. I diplomatici. Sì. Che simpatico sia. Ok, sfortuna si mette lì e prepara il rituale. Garrosh. E niente, vabbè, ovviamente raggiungo gli altri. No, sono 10 minuti, sono tipo 60... No, di più. Sì, vabbè. Se mi dite, 100 turni. Se volete fare qualcos'altro non nel frattempo, lo faremo fate mai! Io, senza attaccarle, do un colpettino alle statue. Proprio un tic-tic, come toccarle con un bastone per 102, vedere se sono ancora vive. Tipo. 10. Okay. Non si muovono. Questa delle statue se sono ancora vive? Sì, come quando tocchi uno per vedere se è morto. Atanas. Quello era per imitare quel gesto. Io aspetto che qualcuno sveli il mistero di cacchio. Infatti, sì, aspettiamo i 10 minuti se nessuno vuol fare altro. Mistero di sto? C'è un bagliore luminoso che viene dal candelabro. Strano. Sta facendo il rituale sfortuna. Merda, rega. Sapienza basta. Magica. Basta che non fate esplodere un altro drago. Religio. Sapienza magica non c'è più Sal. Come no? Arcana, dici? È uguale. Sì, arcana. Fai sì. Qualcosa. Mi siedo. Beh, anch'io posso fare il suo arcana, no? Mi siedo. Adesso. Mi siedo. Sono lì, mi siedo. No, ci sta. Solo 6 dei gradi in questo caso. Non lo so, capo, deve avere la scheda sotto. Non so, guardi, ufficiale. Io faccio un religion su questa stanza, dici? Sì, su questo fuoco magico, su questo bagliore. Magari mi rievoca qualcosa di un ordine dei paladini, qualche rituale che ho già visto. No, non è qualcosa che ha a che fare con la religione, per quanto in realtà... Non vuoi vedere il mio quarto 6 della serata, allora? Va bene, fai il tuo quarto 6 della serata. No, dimmi tutto. No, per quanto è vero che il tema della luce è caro a questo tipo di organizzazione, questo sì, è vero. Quindi... Ho capito. E ci sta che ci sia questo effetto. Ma dimmi una cosa, quindi andando oltre invece si aprono un portone? No, se sbirci là, allora sì. Si fa un religion. Sì. Poi 10 più 3, 13. Crepi larve all'avarizia. Allora, dalla tipica... architettura neogotica, aggiungerei al tuo 13. Esatto. Del periodo, c'è questa struttura che appunto si restringe del castello e contiene una specie di cappella. Mm-hmm. La parte che è più verso l'ingresso è sormontata da un balcone che dà verso la parte sottostante, dove c'è la zona delle funzioni religiose. Intravedi un altare. Mm-hmm. È decorato con dei motivi sempre che fanno riferimento al sole o quindi comunque una religione basata sull'adorazione della luce. Mm-hmm. E ci sono, come nelle classiche cappella, con le finestre alte ad arco, con vetro colorato, le vetrate colorate decorative dietro questo altare, e una delle finestre è in frantumi. E questa cappella, quindi il pavimento della cappella è disseminato di questi frantumi colorati. Mm-hmm. E da questa finestra rotta entra la luce che praticamente si diffonda attraverso una spessa coltre di nebbia che riempie la stanza. Ok, sbloccare la descrizione. Ok, bastava che io guardassi dentro. Invece il mio religion di 13. No, ti permette di sbloccare un'altra descrizione. Descrizione. No, dai, che questa zona del castello è quella dedita all'adorazione, alle funzioni religiose. Vabbè. Capito, una cappella dedita alle funzioni religiose. Non credo che con un religion... Ne sei sicuro almeno? Cioè, non so se sarei mai riuscito ad arrivare a questo... Beh, non c'era molto altro da dire, effettivamente, anche se avessi fatto un punteggio molto più alto. Però ci tenevi a tirare, ti ho fatto tirare. Che carino, Questi sono i tiri che fanno più arrabbiare me. Esatto. Assolutamente. No, lui continua a chiedermeli, non so perché. Comunque, ma mi fa incazzare, no? Perché me l'hai detto tu di tirarlo. Ci tenevi così tanto. Ma hai detto va tu, bene. Tipo, allora se guardi lì mi tiri religion, tipo della serie, oh, ho fatto la mossa giusta, adesso magari svelo. Speravo di leggere qualcosa di più interessante. E l'hai fatta, Vezza, hai fatto la mossa giusta. Comunque, sfortuna, fa il suo rituale e percepisce che in questa stanza... Non posso provare a disattivare la trappola? Vabbè, dai, vabbè, fanculo, allora... Trappola. Volevo smontare tutta la sorgente di luce, ma va bene. Il candelabro è un normalissimo candelabro, semplicemente sopra di questo è stato lanciato l'incantesimo luce continua e da allora non è mai stato disperso, dispellato. Ma può capire se è stato lanciato tanto tempo fa o recentemente? Non direi, non penso, sì. Dato che è una, appunto, un incantesimo che ti dà una luce continua ad infinito, sì. Non è che si affievolisce nel tempo, quindi è come se fosse stato lanciato. Non vedo niente di magico venire dall'altra stanza, la cappella. Non percepisci della magia venire di là. Esatto, no, non c'è della magia. Allora metto gli altri al corrente. Sì, è solo una luce. Non avete grande, puoi tornare a giocare da solo di là. Esatto, va bene. Questa era sfortuna, Garrosh. Niente, a questo punto dico agli altri, dai, a questo punto andiamo su, andiamo a cercare il capo e eventualmente l'armeria, come dice Atanas, e mi avvio verso le scale principali. Concordo. Ok. Atanas? Andiamo su. Non sono d'accordo con quello che ho detto prima. Ma quindi tutto sto casino in cappella non siamo andati? Beh, dedito al culto, noi stiamo cercando il capo, per cui il tizio ci ha detto che è su, andiamo su. Vado in cappella. Sì, chiaro. Alla ricerca di reliquio. Sì, reliquie potenti. Allora. Vero che Salla con le reliquie ha un... In questa stanza, appunto, ci sono queste colonne che sorreggono un soppalco, praticamente. Cioè, qua sopra c'è una terrazza per quelli che... praticamente si siedono sopra e assistono dall'alto alla funzione religiosa. E dal tuo livello invece vedi il piano terra. Dall'8 dici? Ai lati ci sono due scale a chiocciola che appunto servono per salire o scendere. Qui sul lato vedi una porta sulla quale c'è una spranga che la tiene chiusa. Mm-hmm. E, inchinate, praticamente mentre entri vedi meglio attraverso la nebbia e scorgi inchinate di fronte all'altare in adorazione tre figure. che ti danno alle spalle. Sono ricoperte in cotta di maglia e ognuno di loro ha una longsword, quindi uno spadone, che tiene tipo, come si dice, presente i crociati che pregano con la, tenendo davanti la, la spada. Ok. E, tipo cavalieri teutonici. Ok. Ho una domanda, il soppalco sopra continua o è solo, cioè, nel senso, è tipo, fa tipo il bordino dei muri? Una U, sì. Ok, ma quindi mi dà da pensare che ci sia anche sopra questa porta, cioè sopra di me dove sono in questo momento c'è un soppalco, o no? Sì, sì. Tu ci sei sotto. Allora, quindi è tratteggiato. Questo, esatto, e queste colonne lo sorreggo. Allora, Sneaky, voglio andare sulle scalacchioccio. Pelt. Dai, durissimo. E faccio... Che merda! 19. No, vabbè. 19. La merda. Vabbè, ho un più 11, regga. Esatto. Va bene, allora... fammi controllare, ma direi che esatto, non si muovono, rimangono lì in preghiera e quindi tu cominci a salire la scala. E cose che noti, beh, queste tre figure sono molto vecchie e consunte e senti anche un discreto tanfo di cadavere provenire dalla loro direzione. Cos'è Giulio che sta... Ottimo. Sto facendo una strage. Va bene. Questo era Grace. Yes. No, vabbè. E poi no. Tagliarci. Questa pubblicità è progresso, ragazzi. No. rega. Passando dalla scala al super direttore di Longastrino che deve stirarsi le camicie. Sono i pantaloni, però dopo devo fare. Ma non puoi avere uno schiavo che te le stia. Esatto, femmina, schiavo si dice. Non l'ho detto io, l'hai detto tu. Schiavi maschi non o, sono stirati, o negro o sì. Femmina, c'è cioè una delle due. Poi l'avete detto io, non l'ho detto. Spagna. O Filippe, no, la classica filippina, dai. Dalle feritoie della scala chiocciola vedi che qua c'è... C'è il razzista, cimitero. E qui c'è una cripta, una specie di mausoleo, e sopra l'ingresso c'è un nome, c'è scritto un nome, quel nome è Arginvost, che è quello del drago d'argento. Okay. Eccetera eccetera. Questo era Race Patk. Allora, da chi vai, da papà o dalla mamma? Segui Race che è entrato qui dentro, segui il tuo amichetto nano e l'altro pluriomicida. Ma Sala è entrato lì dentro per andare su? Non sai che cosa c'è lì dentro. In realtà volevo andare a cercare l'altare, ma visto che ci sono tre stronze è meglio di no. Magari ve li metto anche nel frattempo, tanto che Arci pensa cosa fa. Che però hai visto solo tu Sala, giusto? Sì, perché da fuori sono nascosti dalla pesante coltre di nebbia. Dov'è che li hai visti, Sala? Scusami. All'altare. Che è questo qua... pregando davanti all'altare. Ma sono quindi tre cavalieri. Katta, se io entro in quella porta lì, in mezzo alle sei cose, c'è l'altare lì in fronte, no? Sì. Beh, io entro lì dentro per seguire... Ok, è vero. Di quello che ha visto lui, le tre figure e questa cappella dove dedica le funzioni religiose. Mi sembrano vive? Ti sembrano persone non staccato morte. Nel senso che sì, sono persone, diresti degli esseri umani, come dire? In carne ed ossa. Carne ed ossa, sì. La carne molto consumata. Lo stato della carne, delle ossa. Esatto. Mi avvicino a loro tre. Ok. Ok. E adesso appena prendo questo qua, magari qua trovo qualcosa. Un cane fantasma. Guarda che non livelli se li uccidi. Sei zitto, Sonny. Ah, lo dico. Ok, questo potrebbe andare, dai. Magari con la descrizione però dei tre. Gli mordo alla gola e dico datemi delle... No, scherzo. Ok. Sono molto grossi. Va bene. Sono di taglia media? Sì. Sono di taglia media, adesso anzi dovresti... Chissà se anche i PNG di questo posto sono costretti a rimanere sempre allo stesso livello per sempre. Loro soprattutto. Però più alto del nostro, chiaramente. Sì, esatto, loro sono molto più forti, tanto. Nel momento in cui ti avvicini si alzano e si voltano verso di te. Vedi palesemente i loro volti scavati e marcescenti. E hanno in tutto e per tutto l'aspetto di non morti. Non sono però i classici non morti zombie senza cervello. Nei loro occhi riconosci che c'è ancora un barlume di senno. E dalle loro bocche escono parole di senso compiuto, in particolare le parole intrusi. E prendono... Cerchiamo di eliminarlo subito. Cioè, non sono come i normali zombie, invece di dire cervelli dicono intrusi, ma il concetto è lo stesso. Esatto. E... invece che dire imhotep dicono intrusi. Sembrano molto ostili. Vediamo. Tra l'altro ho fatto il gioco per fare imhotep. Dobbiamo tenerci la stessa iniziativa. Forse sì, okay. Non è così male, forse sì. Sembrano stile sono stile, esatto, non sono ultimo, però quello che l'altro che era dopo di me è diventato una botte e suona, quindi sono diventato l'ultimo automaticamente. che ironia. Hai... e puoi andare a suonare con lui, forse sarei prima di lui, in effetti, a suonare. Dove sei? Tu sarebbe ancora il mio turno, no, Katia? Hai un'azione. Io? Fatta? Sì, hai un'azione, sì. Puoi attaccare, Arci. Gli sì. Dico... Non so... Ride, vabbè, gli dico non sono qui per farvi del male. Risata, e gli lancio un voltino. No, Druido di merda. Ok, 19 di dado. Druido bastardo. Sì, ah, maledetto Druido. 8 danni. Ok. Va bene. Come sono messo io piuttosto di vita, ragazzi? Sto facendo il maraglio, ma come sto girando? Beh, avete beccato i danni dell'esplosione, basta. Sì. Quindi sono alcuni. Full meno... Hai 85. Va bene. Come lo vedo, Kat? Sono tre cavalieri in armatura con degli spadoni non morti, incazzati. Sì, vabbè, le descrizioni di Kat... Vedi tre inginocchiati, non morti, con i volti scavati. Anziani, esatto. Anziani. Vabbè, gli faccio un voltino. Come sono, Katta? Beh, sono tre guerrieri, armatura completa, armi a cavallo, con alle spalle un esercito di non morti. Ah. Anziani col coronavirus che fanno fatica a respirare, milanesi. Non ricordo di aver detto queste parole. Comunque, uno di loro ti guarda in cagnesco. Vediamo cosa fermo. Succede. E una cosa, i 8 danni che gli ho fatto? Beh, ah, se li hanno subiti tutti. Beh, guardare sì, il cagnesco okay, con ma... Guido direi che non è una grande idea. Capisce mi sembra benissimo. Che l'abbia ferito, danneggiato in maniera normale. Il danno l'ha beccato tutto. Mi sembra sì, comunque ancora in forma. Sì, è molto in forma. Okay. 130 punti ferita. Oh, guardate! Vabbè, è lì! vecchio scavato, viso in forma perfetta. Ho ancora del movimento, catta io. Hai usato attuazione per usare il voltino? No. Sì. No, se quelli erano dei vecchi io non ho usato l'azione. Se quelli erano dei vecchi mi piace come condizione. Comunque, uno ti guarda molto male e devi farmi un tiro a salvezza sulla saggezza. No, sperando di fallirlo così scappo. No, 18 di dado. Mi spavento comunque, Katta, posso scegliere di spaventarmi. Posso scegliere di fare uno, no? È una, no. una discussione molto filosofica. Sì, ma è meglio essere spaventati e scappare da giocatore che avere la condizione spaventato e dover scappare con quello. I tiri salvezza siano molto un istinto, in realtà. Ma torna se non ho l'istinto adesso? Tu potresti non essere spaventato, però dire, beh, vabbè, forse è stata una gran idea. Ciao. Però scappi lo stesso, quello certo. Sì. Sì, ma con questa cosa scapperei adesso, mi sa. Ma scusa, sei un druido ucciso. No, non scapperesti adesso. No, il prossimo turno. Cosa non scapperesti. Ok. Comunque, due, appunto, uno ti guarda in cagnesco, mentre gli altri due si avvicinano con cattive intenzioni. E la maleducazione? E la maleducazione. Una brutta figura di sera. Uno ti attacca due volte col suo spadone. Una volta... Chiedere il cazzo, Arci. Cosa che c'è? Chiedere il cazzo. Manca. E il secondo... Io non avevo capito, raga, che fossero tre in armatura completa con spadoni a cavallo. Basta! Cioè, non è un'armatura completa, è una cotta di mani. Ma è ovvio, l'ambientazione è questa, cioè tu devi morire male. Basta. Io mi aspettavo tre vecchietti pregati. Devi morire male. Ma soprattutto, in teoria, noi siamo qua per parlamentare con loro. Ma no, questi qua non ci può... Io no. Non volevo fargli del male. Sì, ma perché ha detto che erano già ostili. Arci ha scoperto prima. Una faccia più male, vabbè. Va bene, comunque ti fa 15 danni. Che okay. Segna, Giulio. Metti sul mio conto. Con due attacchi o uno solo ha fatto 15 danni? Con uno ha mancato. Bardistron. Senti il combattimento che... rompere in questa stanza. Niente, ritorno lì. Sentiamo. Okay. Ritorno, non ci sei mai arrivato. No, scusa, nella stanza... Non sono nella cappella? Sì. No, tu sei nel... No, loro. Sì, sì. Loro sono nella cappella, vabbè. Tu no. No, no, ok, infatti torno nella cappella. Ok, sei nella cappella e col tuo movimento riesci ad arrivare fino a qui. Cosa fai con la tua azione? E loro sono a che distanza? Fermi. Non ho capito cosa hai detto. A che distanza sono da me? Da te sono a 15 piedi. Gli dico... No! Non avevano fatto un riposo lungo, no? È tutto un errore. Ci ha mandato il pro di Oriordan per parlamentare col vostro capo. Fermiamo questa follia. E tiro un... E mi aggredisce. Puoi risparmiarti questo tiro, così non ti arrabbi con me. Ok. Perché la loro reazione è quella di... Intrusi, scacciate gli intrusi. Quindi, sì. Beh, però sono abbastanza incoglioniti. Sì, alla fine sì. Perché c'è qualcosa nel loro sguardo che appunto da cui permea odio puro. Chiaramente totalmente irrazionale. Forse anche loro lavorano a Porto Maggiore. Allora. Sono gli amici di Atanas. Comunque, adesso che hai una buona visuale della cappella, le tue conoscenze di religione ti dicono che è dedicata al dio dell'alba. Senza neanche un tiro. No, uso il tiro che ha fatto prima. Adesso che la buona visione della cappella, capisci non che stiamo facendo. L'ho fatto io quel tiro di prima. Ah, no, sì. È per me, ok, la cosa, scusa. Sì, sì, la religion. Ok, ok. Cioè, hai ancora... pratica, è come se tu avessi visto un crocifisso. E... Ah, è Gesù, esatto. Sì, potrei fare un coso. Hai ancora l'attuazione. ho ancora la mia azione, ma la mia azione non si può concretizzare. Sì, appunto. Quindi, o andare in corpo a corpo per salvare il tuo amico. Ma no, hai detto che sono a 15 piedi. Ma no, non è un mio amico. Sì, usi l'azione come movimento. Lo scatto. Per essere in invece... mezzo. Salvare il mio amico è il druido, cioè è lui che salva me. Comunque va bene, dai. È vero anche questo. Comunque va bene, vado lì, così posso prendermi dei danni e... no, meglio evitare di sprecare roba in questo momento, dai. Comunque non mi ricordo cosa volevo dire. Va bene. Ti getti nella mischia. Questo era Vardistrans, fortuna. Per quanto avrei potuto fare il coso? Sprecarlo, fare il passaggio. Il misty step, così. Sfortuna, cosa fai? Ok, io sento un po' tutto questo casino. Volevo seguire Atanas, però mi affaccio. Cosa vedo? Tutto vedi, quel casino? Sì, tra cavalieri. Quanto movimento mi è rimasto? Allora, tu sei partito da qua. 30 piedi, arrivi qui. Ne faccio 5 meno, riesco. Sì. Meno quanti ne vuoi? Sì. Proprio all'entrata voglio stare. Mi muovo di 5 piedi, riesco. Sto fermo, posso? Un alleato non ti potresti fermare. A questo punto dico, andiamo a bruciargli la casa. Giusto. E casto una palla di fuoco. Okay. Dovresti poterla vedere. Siamo qui per parlamentare, palla di fuoco. Fammi vedere la palla di fuoco. Questo non è quello con l'immagine. Ah, tristezza. La puoi vedere. Beh, comunque 33. E loro devono fare un tiro salvezza. Ah, no. Ok. CD? 15. Si chiamano Revenant. Esatto, come il film di DiCaprio. Gli do un Oscar e vado via. Capolavoro. Se pareggia, passa. Sì, sì. Credo di sì. C'ha sempre sto dubbio, Katta, sì. È vero. Me lo scordo sempre. Sì, va bene. Non è come l'ex Arcana che il pareggio fallisci. Qui il pareggio è successo. Ritiri e finché non vinci. Esatto. Aggiungi pietos. E uno passa e gli altri due no. Quindi 16 chi ha passato, 33 chi no. E uso il resto del movimento per allontanarmi. Ciao. Cioè, già sei in fondo, scusami. Questa era sfortuna. Carrosh. Tanto io sto aiutando, te stai salendo le altre scale dall'altra rampa. Vabbè, ma questo è tipico. Questo è tipico, tutto. Vorrei dire. Anche da lì sentiamo un rumore di battaglia. Uscirebbe dalle finestre se potesse. Oddio, una strega! Sentite una palla di fuoco che si è schiantata in questo... Okay, in questa... All'ultima mi sono fatto trasportare su, ho agganciato il teschio fiammeggiante, l'ho abbattuto. Ti sei fatto... Allora, no, l'ultima faccia. Volta ti sei fatto trasportare da un'aquila contro il tuo volere. Sei dovuto, per poter intervenire sei stato trasformato prima in un gorilla e poi in un tirannosauro. Ma quello dopo, che già ero intervenuto. Perché se no volevi andare... Io catta semplicemente vedi no, dove non è vero. Non... Riesci ad arrivare qua con tutto il tuo movimento. Allora, il movimento pressione. Ok. E dopodiché tocca a Atanas. Dov'è l'elfo? Nella sua stanza dove avete detto di stare. Posso andare in mira se non attacco, sì. Okay. La perderesti. Mi muovo... No, se mi attaccano loro. No, se ti attaccano loro, è vero. Mi muovo anch'io... Però se non mi attaccano l'ho perso. No, non va di mira, scusa. Okay. Mi muovo anch'io dei due movimenti. Certo. Quindi col primo arrivi in questo quadretto, col secondo arrivi in questo quadretto. Voilà. Poi, qui, questo è Ratanas, Revenant, tocca a loro. Voilà. Quindi, quello dietro, non contento, si sposta in avanti e guarda Vardistran col suo sguardo terrificante. Ma lui è un paladino, immagino non possa essere spaventato. No, non funziona così. Sarà malato. Tiro salvezza CD 15 sulla saggezza. Niente di più. Ho il più 3. Sì. Sì. E poi io forse in saggezza ho già più 3, quindi è un 18. E vedi che ce l'hai la saggezza. Sì, ho il tiro salvezza, ma non il non sulla... Alla proficiency. Esatto, bravo Giulio. 18, merda, gli sputi in un occhio. Ok. Ah, e dopo aver assaggiato il pipistrello di prima, chissà cosa può succedere. Esatto. Poi quello in mezzo ti dà due ceffoni. Nonostante io l'abbia accecato, quindi con svantaggio? No, questa era l'altra. Ah, non sono multisputo. Non sei multisputo, devi prendere il talento. Okay. La classe armatura? Bassa, 16 credo. Ok, ti colpisce con entrambi i suoi attacchi col suo pesante spadone e ti infligge 30 danni. 15 e 15. Che puttana! Molto bene! Bravo Arci, ottima idea. Hai risparmiato a Patk questi altri. Sì, ora Patk è pregato di diventare il solito bisonte, orso, mannaro e ucciderli, però. Credo che diventerò un roditore questa volta. Esatto. Divento un gorilla gigante. Una nutria gigante. No, oppure okay. Fai polymorph. Sennò... Ah no, sì, però c'è concentrazione. Il solito discorso. Sta proprio a race, quindi non c'entra niente. Ma va bene. Ah, vado su. Oh. E da su immagini poter sparare giù. Sì. Esatto. Allora tu per andare su io faccio copia, poi io vado qua piano 2 e scompaio. Ciao stronzi. Ma ciao. Scompaiono tutti tranne te. Ma quanto tempo è che non attaccavi? È un bel po', perché lui durante il primo turno è salito di sopra di fatto. Quindi sei... No, ma mi sa che Vezzi dice proprio in assoluto. Sì, assoluto. Ah, te è un bel po'. Livelli e livelli. Non sì, so. Perché secondo me anche le altre volte che avevo... Cioè, in realtà non attacco da un bel po' di tempo, ma non faccio nessun danno da tantissimo. No, hai fatto un furtivo contro... Forse no, è vero, qualche tempo fa ha fatto un furtivo, che infatti ho detto, ma insomma, allora ce l'ha... Certo, ce l'ho. Ma infatti non capivo. Vabbè. Sparo un quadrello su uno contro... Aspetta, però c'è la descrizione. Porca puttana, cappella, il combattimento, non guardo in giro. No, sparo da sopra. La descrizione durante il combattimento. No. Mentre spari, ti accorgi di essere su un balcone di legno che dà sulla cappella. E qui c'è una sedia di fattura squisita. E un trono praticamente di legno e due porte qua in fondo. Aspetta rega, io so che perché siamo qua e so chi dobbiamo trovare. Sì, okay. E dal soffitto pende un candeliere di ferro, le cui i raggi candele sono fatte nella forma di piccoli draghi d'argento. Classica. Prego, mossa per cadere. Esatto, infatti stavo per chiedere, è esattamente sopra i tizi. Esattamente sopra i tizi. Ma becco anche Patk e Vardistan. Lo deciderà un dado percentuale. Oh. Va bene, mano magica e spac e provo a, come si chiama, a sbullonare il candelabro. La cosa triste è che loro prenderanno tipo un 25esimo del danno, mentre noi lo prenderemo intero. Devo fare un tiro di Thieves? Sì, di fatto. Se usi i tuoi strumenti, sì. No, uso come si chiama, Arcane Trickster, quello Mage and cazzi. Attenzione! non è quello che ti permette di usare gli strumenti con la esatto, mano. Sì, esattamente. In realtà tu Varrison sei abbastanza coperto perché sei dalle colonne. No, è vero, è solo Pat che ha rischio. Faccio 25. Ok, senti un grosso, sentite tutti un cupo rumore di metallo che... Beh, che in realtà anche uno dei... Sì, anche uno dei... chiaramente cade addosso a questi due e vediamo Pat che mi farà un tiro salvezza sulla destrezza. Con un più tre però. Con un più tre perché c'è Bardistran di fianco. Tira. Tira. Silenzio, non fa presagire nulla di buono. Sta aspettando che arrivi il 20 sul problema. No, aspetta. Ah, io mentre lo faccio cade. Ok. Cade è venuto più. Oh, tiro di 20. Non è più venuto 20. 11 di dado. Più ho 2 io, mi sa. Quindi vado a 13 più quelli di Vez 16. Ok. Quindi eviti le braccia metalliche del candeliere che si schiantano. Stia su di loro. Noi qui con noi. Ma tipo invece... cartone animato, ora loro sono tipo incastrati. Ci sono gli uccellini che volano intorno alle loro teste. Esatto. Ok. Molto bene. E poi uso il mio dash per guardare la rilegatura dei legno della ringhiera, così puoi descriverla. Vuoi vedere il trono? No. La direi semplicemente che è molto decorato. Perfetto. Ti ci siedi sopra. Sì, mi siedo sopra. Trappola sicura. No, non è vero. No, in realtà volevo andare a cercare il tizio, però a sto punto, visto che sto... Beh, magari penso stai qua a aiutarci per una volta. Ma magari io pensavo, vado al tizio e dico, rega, cioè, Bomber, c'è stato un malinteso e i tuoi sgherri stanno picchiando. Sì. Però in realtà la mia paura è che lui dica, non è un malinteso, mi legni di brutto. È assolutamente quello che succederà. Per cui nel dubbio non ci vado. Ci limiti a dire intruso. Esatto. Per cui non ci vado. Molto probabile. Beh, okay, sono andato a parlamentare un altro. Pac. Sì, cioè non ci ha mandato a parlamentare, ci ha mandato a convincerlo. Appunto, significa che almeno lui sarà sì, un po' sì, sì. Ci vai poi tu dopo, io non ci vado. No, ma non voglio che tu ci vada, dico che... Pac. Cervelli. Sì, sicuramente sarà messo meglio. Catarielco è quella merda. Allora, quello lì davanti a me chi è? È il numero 2 o il numero 3? Ce ne sono due. No, quello dei nostri. Garrosh. Io. Ok. Io non sono in corpo a corpo con loro, no? Sì, te ne ho appena toccato. Allora, dai, io... diventa un orso. E frizza il turno. Beh, no, sei peggio di Vezzarci. Cioè, o diventi... Dai, diventa un bestione. No, volevo far diventare... ma poi devi tenere concentrazione. Mi sposto, vado indietro. Mm-hmm. Verso la porta. Quello con la barba rossa lì chi è? Sì, è Garrosh. Io. Usi la tua... No, scusa un attimo, quello che sembra razzi chi è? È una... No, qual è che sembra razzi? Ah, è Vez, no, ok. Garrosh è rosso. Allora io vado indietro. Chi sembro io? Usi il disengage per o ti prendi gli attacchi d'opportunità. Non lo vedi? Che il disengage cos'è una reazione? Dovevi farti grazie. Una reazione o un'azione? Azione. No, allora mi prendo gli attacchi d'opportunità. Ok. Invece Salla è la versione blu. Vez l'ha detto, amico caro, dovevi farti grazie tuoi. Sai amico come ci caro. Qua, Arci? Te lo dico da amico. Sta arrivando, Giulio. L'hanno ordinato su Amazon. Sì, focus del combattimento. Uno degli attacchi di opportunità ti colpisce e ti fa no, c'è scritto qua che due maroni che gli devono dare due armi. La balconata. È vero, sono razzi. 9-13 danni Arch. Mm-hmm. E arrivi fino a dove? Dietro a Sheo. No, sì. O addirittura in fondo con 30 piedi per arrivare fin qua. Allora, prima mi metto stanza, vicino a Sceo, lo faccio diventare un T-Rex. Ok, e poi vado un po' fuori dietro. Sì, ok. Quindi tu, Race, dalla balconata vedi sputtare la testa di un gigantesco rettile. Oh, è tornato! Gli sparo. Vardistan, vai. Ah, provo a cavalcare il T-Rex. No. Blu. Mi sembra un'ottima idea. Ma questo è... Aspetta, però, scusa, non potevi fare Vez così facciamo davvero Velocipastor? I miei perché? Attacchi normali non gli fanno niente perché è un prete. È un prete che diventa T-Rex o Velociraptor, non si è ben capito. Che i danni dalla caduta del lampadario li hanno subiti. Il punto è che sono come dei sacchi di carne morta, quindi ne possono incassare veramente tanti. Però subire li subisco. Beh, vabbè, intanto cominciamo ad attaccarli, poi vedremo. Ok, fai prima il primo attacco. 17. Colpisce e noti che la rifinitura d'argento sulla tua spada si crepa. Ti cazzi, non uso quella, uso quella normale. Bravo, cioè bravo, ti sei salvato in corner. Vabbè. Bravo, avresti potuto. No, vabbè, quella l'ho già persa quella io. Ah, cioè, ce l'ho, ma così. Ok. Non lo so, cominciamo a usare uno smite, dai. Ok, sono non morti, quindi tu sai benissimo che... Radiante. E? Gli fai anche un D8 in più. Bravo. Show me power. Power to be different! Io ritiro l'uno e questo è il gioco in cui lo faccio, vero? Sì. Oh, rega, con i D8 ho fatto 8 e 7, 16. Grande. Io però, raga, solo devo andare verso 23, 26. Ma direi che tra un po' tu ce la fai un altro 10 minuti che magari li secchiamo. Sì, esatto, 36, li secchiamo in 10 minuti. Tanto il mio l'ho fatto. No, secondo me questo andrà per le lunghe. Io ho visto la faccia di Katta e la faccia di Katta ha detto siete fottuti. Ok. 36. No, però cioè, sono veramente dei sacchi di carne. 36 danni. Su, quello in alto, quello in mezzo, quello in basso. Quello in alto. Sansalla, sono dei sacchi di carne, se noi abbiamo uno FK che non spara. No, chi è che si è colpito? Quello in alto e quello in mezzo? Ah, ecco, su Valorant spesso hai degli AF. Sono stati colpiti più o meno tutti, quello in basso e quello in mezzo un po' di più. Purtroppo sono abituato. Allora su quello in mezzo lo faccio. Attacco. La Michela reclama il suo giaciglio. Però ti dà un micro buff se c'è un AF. Quanto sono i danni? 36? Sì, su quello centrale. Devo fare il secondo attacco ancora? Esatto. Magari finisci vari strane sfortune così finisci il turno. Sono 23 per colpire. Parla per te, Sceo, io ora esco. E poi faccio di nuovo un altro smite. Ho detto parla per te, io ora esco. Ok, ricorda di aggiungere un dio. No, ma dicevo per lui perché... Aspetta che ritiro dei dati. Anch'io. In realtà... Sono in un periodo in cui non ho orari stretti per una volta. Faccio una partita Valorant per vedere. Lavoro 3 ore al giorno. Io che bello. Bello. 25 danni. Ah, perfetto. Alcuni radianti. Ti dico, allora, del primo erano... te l'avevo detto, 7, 7, 8, quindi 14, 23? No. 22. No, non importa sapere quanti sono, l'importante è che ce ne sia almeno uno. Sì. Io le chiedo una buonanotte. Sì, sì, ciao, infatti Arthur. Adesso faccio sfortuna e poi andiamo a Nanna, così ricominciamo dal primo. Beh, lancio un'altra palla di fuoco. Prego. Bella, rega. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao, roditori. Ciao, Chirottolo. Il raggio della palla di fuoco quant'era? Oh, stavolta c'è anche l'immagine. Sì. Come hai fatto? Dove? Ho inserito nella nota di mettere l'immagine. Ah, perché tu usi di roll. Clicca nella chat. Qual è la chat? Sì, sono su Roll20 adesso. Non mi vedi in basso a sinistra? Ok, ti vedo. Ma c'era anche prima. Stavo guardando... Ma scusa, tu non puoi entrare dal tuo... Cosa stai facendo, rega? Non capisco. Lui tira direttamente da qua, dalla chat di Roll20. Ma allora posso entrare anch'io, ma invitatemi. No, non avevo messo l'invito per tutti nella chat una volta. Dunque 26, 15. Ma non facciamo prima usare tutti i Roll20 allora? No, sei cazzo, i dadi io li uso. Non puoi dadi... usarli, però entrare tutti là. Adesso vi mando però invece di Discord usare quello a sto punto. No, devi usare lo stesso. Ormai siamo messi qua. Quanto è il raggio di Fireball? 20 piedi, credo. No, questo è il range. 20, ok. Ma lo faccio tipo contro l'altare, bruciamo tutta la chiesa. Tanto sono un neutrale. Come si dice? Dopo la seconda, già la prima, ma ancora di più con la seconda palla di fuoco, come caso si chiama? Il soppalco sta prendendo fuoco. Che bello. Come, scusa? Il soppalco qui sta prendendo fuoco. Ma sei uno stronzo. Vabbè. Adesso torno giù e gli sparo una freccia. Cosa è successo? Non esiste che uno tiri palla di fuoco e non dia fastidio almeno a uno dei compagni, cioè è impossibile. Chi ha colpito, me o Race? No, nessuno, ma solo palco sta fuoco, che è di legno. Ah. 33 danni, ok. Ma con c'è l'immagine? No, 33 era prima, adesso 26. 26 è quello qui va. Quindi questo va a matematica. 6. Sai che dovremmo fare un riposo lungo. Perché riposo lungo? Perché io finirò gli incantesimi e la vita. Ma mi sa che prenderemo anche tante botte. Adesso io vabbè, sono un tiranosauro. E la vita, infatti, ho detto anche. Ok. Sì, ne prenderemo parecchio. E quindi tocca Garrosh. Direi di fermarci. Scrivo in caps lock e diamo la buonanotte. E poi come sono messi? Quello al centro è un po'... comincia a risentire. Gli altri due sono ancora arzilli. Molto bene. Vedi che ho fatto bene a non andare in ira. L'avrei persa. Una mucca che dice di andare a letto. Salutate la Miki così. Ciao Miki. E capisci. Ciao Miki. Ciao Miki. Va bene. Allora niente, ci siamo dilettati in questo castello Marcondiron di Rondello dei Paladini. Abbiamo trovato amici elfi e meno amici redivivi. Vi diamo la buonanotte, ma vi ricordiamo che ci potete continuare a seguire sui nostri canali social, Tycoons & Dragons, RGDR, tra cui ovviamente sia il blog che il podcast. Ci ritroverete la prossima settimana con la sessione di Umbra Imperi, quindi studiatevi bene il latino, le ripassate, fate le vostre lezioni online, no, perché ormai sono finite, e poi... Secondo voi Ema ha fatto sciopero l'ultimo giorno? Secondo me sì, ci stava. Però non l'ha fatto apposta perché non si ricordava. E niente, alle prossime sessioni con Tycoons & Dragons. Speriamo di trovarmi numerosi. Se avete qualche commento da fare sul mio modo di stirare le camicie, fatelo pure. E io cercherò di migliorare nella prossima seduta. A voi e buonanotte. Buonanotte. Allora. Ciao. Congratulazioni.